Dagli studi fuori norma di Italian Podcast Network, con le avveniristiche attrezzature scartate dal terzo mondo, condotto da un coraggioso manipolo di brutta gente e col fondamentale patrocinio di Morgan, va ora in onda Dietrologia Videoludica. E buonasera, buongiorno a tutti quanti. Siamo tornati in questa nuova puntata di Dietrologia Videoludica e siamo arrivati all'undicesima puntata. Il titolo della puntata è Quando i videogiochi ruppero le scatole, e non è un titolo per far polemica, ma è semplicemente per descrivere in maniera simpatica e divertente quali siamo noi, il Digital Delivery, che sarà appunto centrale nella nostra trasmissione. A farmi compagnia, io sono Marco, c'è una persona molto importante, il co-conduttore, un uomo che è riuscito ad unire insieme l'abigeato, le pecore, le banche e il cioccolato fondente, ed è proprio lui, circondato da migliaia e migliaia di scatole di pizza vuote, Biggio, Stefano Biggio. Buonasera amici e bambini, buonasera a tutti. Capito? È stato sì, molto... però devi andare avanti adesso, devi presentare anche gli altri. No, mi pensavo volessi dire qualche altra cosa di simpatico oltre a dire buonasera, che ne so. No, cioè, no, cose simpatiche io non ne dico, lo sai. Sei proprio triste. Mi dispiace. A proposito di tristezza, andiamo in un altro posto dove c'è molta tristezza, perché c'è tanta nebbia, gente che lavora, che va di fretta, incazzata come una biscia. L'uomo sempre incazzato, il nostro James Bond, Alex J. Raccuglia. Buonasera, buonasera a tutti quanti, anche a quelli che sono meno tristi. Guarda che voce, anzi senti che voce incazzata, è bellissima. Mi sono emozionato, come sempre. Ma stasera però ci sono delle defezioni, perché non ci sono persone quali il nostro Luigi Marrone e il nostro Bonsaso, quindi c'è un problema, chi è che va a dire le cose intelligenti e interessanti? Ma... E soprattutto, ecco, una persona che non avrebbe comunque detto cose intelligenti e interessanti manca. E in questo caso il piccolo Simone Pizzi che sicuramente ci sta ascoltando da qualche parte, magari con il bicchiere attaccato al muro, come si faceva una volta. Esatto, sicuramente. Ma noi abbiamo trovato personale che riesce a sostituire tale mancanza, tale vuoto che c'è dentro di noi. Abbiamo trovato una persona incredibilmente dotta. E signori e signori, l'uomo che copia gli articoli agli altri per darli a noi di DVL, l'uomo che ha fatto della carta carbone il suo motif principale di vita, proprio lui, Simone cognome Andreozzi. Buonasera, che adesso vi presenterà qualcuno dotto a parlare dell'argomento, perché non ci credo che li chiamano a me per sostituire Saso e Luigi Marrone. No, allora, non valgo un'unghia di nessuno di due. No, di, tu ti chiami Simone, ti usiamo per sostituire Simone Pizzi, così diciamo. Ah, ma me sta bene, sai che avendo questo nomignolo, cioè cognome, è come un jolly, tu puoi prendere l'identità di chiunque, in realtà. Esatto. Tra l'altro, chiunque si chiami Simone, però. Tra l'altro ho imparato bene a imitarlo, perché ecco, facci un po', facci 30 ci siamo visti di recente. A me sta bene che questa cosa delle scatole, dei giochi delle scatole, è un argomento troppo e non va bene, quindi adesso chiudiamo il podcast, apriamo quello mo cacci, quello e basta, poi va bene. Oh, ci tiro fuori altri tre podcast, questa sarà la trilogia. Mo questo taglio, poi togliamo la trilogia. Perché la lunga mano di IPN, devi dire anche. Esatto, no, fa intervista a quella me rompessi a cazzo, quello mo. Mo te conteghiamo domani. Cazzi tui. Mo so cazzi tua. Ma dai, rientriamo in noi. Perché esatto. Okay, dobbiamo dare riferimenti. Stefano, diamo questi fottuti riferimenti. Diciamo alla gente dove possono trovarci. Se mai volessimo. Allora, in primis, se proprio ci tenete a leggere ciò di cui scriviamo, news, articoli e cose. Ciò che io copio, insomma. Sì, se volete vedere da che cosa. Ma non è vera poi questa cosa. No, sei una leggenda metropolitana, okay. Capito. Comunque, trovate tutto su www.dietrologiavideoludica.it, che vi consiglio di leggere, di consigliare ai vostri amici, ma soprattutto ai vostri nemici. E poi ci trovate nella pagina di Facebook cercando Dietrologia Videoludica e su Twitter come Dietrologia Videoludo. La posta elettronica già c'è inutilizzata, perché tendenzialmente poi ho visto che viene utilizzato il sito o Facebook per mandare messaggi, ma se ci mandate qualche email nessuno penso che si metta a piangere. Ci sono arrivati in realtà, caso. Però diciamo ci sono arrivati. Sì, poi ne parliamo magari. Poi vediamo dopo. Sì, okay, ma allora in privato anche direi. Okay. Ah no, ho capito. Allora mi dispiace. Sì, ho capito. No, ma arrivano. Motivi. Sono molto passive, arrivano. Ma arrivano, cioè sì. Ok, e non sono solo quelle purciase Viagra eccetera eccetera, ma arrivano anche altri email. Esatto. E ci trovate quindi su Gmail a dietrologiavideoludica@gmail.com. Detto ciò, io direi di iniziare con la parte centrale. La parte centrale. Ok. Oh, bene, allora, quindi dobbiamo introdurre come una nostra consueta abitudine quella della lettura, perché noi ovviamente siamo in IPN e IPN è la serie di podcast ideale per essere imparati all'italiano, no? Giustamente. Quindi sì. Andiamo subito a presentare la descrizione di quello che sarà il tema della serata, letta come al solito dal nostro Biggio, che poi sarà sottoposto a un fuoco di fila di voti, come al solito. Esatto, io. Attenzione, veramente. Io mi aspetto molto, anche perché tu hai fatto delle letture nelle ultime puntate, quando non ci sono stato io, entusiasmanti, ed erano molto lunghe. Adesso io, per venirti incontro, perché sai che dopo più si va avanti e più la gente vuole i risultati, io ti ho fatto una cosa molto piccola. Poche righe, sì, semplice. Visto. Sì. Infatti mi ha stupito, pensavo di aver, cioè che ci fosse qualche pezzo nascosto che. Ma non te posso far fare una brutta figura, ci fa una brutta figura poi, che cazzo. Quindi. No, comunque. Sta bene, sta una brutta figura. Bellissimo. Quindi dai, forza. Comunque. Dai. Sì, allora adesso leggo. Un bel respiro e vai. Sì, ecco, io faccio la mia solita premessa, quindi ricordatevi che io già so malapena leggere. Io vi ricordo che so scrivere ma non so leggere. Ricordate questo, sto quindi imparando a leggere. In più sto anche dimenticando l'italiano fuori di stare qui. E in più sono tendenzialmente stupido, quindi questo chiaramente non migliora la mia condizione. Ma io ogni volta mi sottopongo e ci provo lo stesso, perché insomma sono un duro. Chi la duro la vince, eccetera eccetera. Quindi inizio. DVD retail o digital delivery? Vantaggi e svantaggi dell'uno e dell'altro. Perché i giochi in digital delivery costano comunque uno strafottio, almeno nei primi tempi? Dove finirà la meno hobby di collezionare videogiochi e non solo? Il retail scomparirà? Saremo costretti ad ammirare le nostre collezioni tramite uno schermo? Ha senso un museo di videogiochi ora e in questo momento? Il problema dell'oblio informatico, sia in piattaforme che dei supporti. Bravo. Si vede che la Svizzera ti ha aperto la testa. Stavo pensando la stessa cosa. Diamo i voti. Allora, cominciamo dal dotto, il dotto, diciamo, della serata. Nominato dotto per alzata di maniche. Allora. Esatto. Simone, voi. 9 e mezzo. Dai, 9 e mezzo. Oggi. Mi scheggi la faccia con questo voto. Attenzione. Poi. Mentre bestemmia il cane, bellissimo. Mentre sistema il cane. No, non è mio. Vabbè. È la poppetta velenata. Lo tengono in un balcone, poverino, e quello si lamenta. Giustamente. Quindi poppetta avvelenata ai proprietari. Giusto. Vai. Quindi 9 e mezzo. 9 e mezzo. 9 e mezzo, beh, va bene. Sì. Alex, cognome Racuglia. Alex, allora, voto alto, direi un 8 al 9, poi direi perché non do voti altissimi, perché quando andavo a scuola io, per me prendere 7 e mezzo era già un miracolo e mezzo, per cui... Ma parliamo di videogiochi, qui i nuovi voti sono assolutamente... Allora i voti vanno dal 9 e mezzo... Cioè dall'8 al 9. Cioè, tipo 8 fa già schifo, cioè se mettiamo la votazione stile videogioco, 8 fa schifo, cioè non fa schifo. No, ma ditelo allora, chiaramente con la percentuale TGM, dai. 9 tipo no, allora... un nuovo Metal Gear Solid, mettiamola così. Esatto. Allora posso dare quindi ritratti tuoi. Dicevo 93% con un'ottima giocabilità e un'ottima tenuta nel tempo. Ascolta, la grafica è buona, volevo sapere anche quella. Allora, la grafica purtroppo io vedo sempre questa immagine meravigliosa in 6 colori. Sì. The name of the game che non si può guardare, per cui la grafica è un'ega, fa schifo. Sì, lo so, ma quella è per strizzare l'occhio al fatto che è un retrocast e così via. Perché se, È una frase molto indie, direi. Sei molto indie. Grazie. Nessuno mi aveva mai dato dell'indie in vita mia. Non so se prenderlo come un complimento o un insulto. Comunque, vabbè. Ti ringrazio comunque per il voto, che equivale a un 9,3 alla fine. Quindi, va bene. Quindi comunque alto. A questo punto, Marco. Allora, io devo andare un po' controcorrente, però ti spiego anche perché. Perché hai letto, sei stato bravo. La lettura, io direi, solo la lettura andremo sul 9, 9 e mezzo. Quindi ci siamo. Però era semplice, quindi non mi posso allargare. È quella la cosa. Quindi ti do un 7, vabbè. Però tu sai, vabbè, che tu lo sai, tu rimani tra di noi che quel 7 è un bel voto, però. Cioè, è come se fosse 9. Cioè, tipo, lo sai che sono uno stronzo, lo sai, quindi non preoccuparti. No, è bellissimo, bisogna fare anche il coefficiente di difficoltà come i tuffi. Quello è come se fai il tuffo a bomba. Tipo Dungeons and Dragons. Hai fatto un tuffo a bomba, devo dirti anche la classe armatura che ho a questo punto. Cos'altro devo fare? Non lo so. Vabbè, comunque. Chiudiamo questa parentesi amena della lettura e andiamo. Sì, direi di parlare un po' del tema centrale, dai. Potrebbe anche essere utile discuterne dopo mezz'ora di cazzate. Non si capisce che ci stiamo girando intorno. No, in realtà non sappiamo cosa dire. Non è vero, allora io ho tante cose da dire che ho visto proprio oggi. Non è vero, non ho tante cose da dire, era uno scherzo. Comunque. No, possiamo partire da, diciamo, i pro e i contro. Chi è pro e chi è contro, per dire, no? Sul trasferimento degli acquisti ormai del mercato su Digital Download. Sì, velocemente, Simone Cognome, tu ad esempio. Io sono pro tutto, ma non solo sono pro a questo, ma sono pro anche al concetto di vendita nuovo, che non è effettivamente un concetto di io compro un bene, ma io compro il diritto a utilizzare un bene, che è una differenza sottile ma tipo fondamentale, direi. E perché voi sapete che tu tramite, non saprei su iTunes, ma tramite Steam sicuramente e anche tra il PlayStation Plus, voi non acquistate il gioco ma acquistate il diritto a utilizzare il gioco. Per cui, esatto, per cui non avete non possedete fisicamente, anche perché non c'è il gioco, ma il diritto di utilizzarlo, e quindi secondo me cambia un po' come le prostitute, non le possiedi fisicamente, esatto, ma hai il diritto, esatto, di sfruttarle, esatto, di utilizzarle. Esatto, esatto, ed è un concetto che ed è applicato in certi paesi anche alle cose reali, tipo i frigoriferi, le caldaie, il vano caldaia, tutte queste cose tu lo utilizzi, paghi un affitto, un comodato d'uso. Esatto, e in certe cose funziona bene, perché di solito quando è così la caldaia che ti danno loro e ti garantiscono la funzione non si guasta mai, per dire. E cose del genere. Comunque, beh, senza fare voli pindarici, io sono pro anche questo, cioè non interessa possedere l'oggetto, ma cioè avere la possibilità di usufruirne quando mi pare e come mi pare. Tanto che anche con Spotify, appena arrivato, io prontamente ho fatto abbonamento, per dire. Quindi la mia, diciamo, almeno sulla gestione in sé è così. Vi lascio a voi il resto della comunità. Allora, Marco, io, ecco, pro contro. Io sono in questo caso un po' e un po'. Poi ci sono diverse. Ho dei pro e dei contro. I contro poi magari penso che li toccheremo durante la serata, i vari temi, perché poi dopo andremo a fare delle belle disamine. Sono pro perché comunque alla fine è un modo per evitare che magari ti compri un gioco, la musica, un film, quello che è, e dopo magari 6 mesi lo vai a riutilizzare, il CD è rotto o non funziona, quindi comunque hai la possibilità di usufruirne tra virgolette sempre. Sono contro perché poi si perdono delle cose, è vero che tu guadagni delle comodità ma perdi altre cose che poi vedremo, come magari i vari minicoli che si possono trovare nelle confezioni, la confezione stessa, la possibilità magari di avere dei gadget particolari che col digital delivery non ci sono, oppure la necessità di avere comunque delle linee internet che magari in Italia non è che sono proprio perfette, ecco, diciamo, sì. sono ancora migliorabili, ecco, così. Quindi, esatto, decisamente, diciamo che attualmente per la situazione italiana siamo un po' nel 50-50, insomma, che Alexino Racuglino, anche tu vuoi dire la tua? O... La tuina. Volentieri, ti ringrazio. La tuina. La tuina. Allora, fotte sega. Devo dire, okay. No, io mi rendo conto che, pur non essendo un giocatore incallito quanto voi, sto sfruttando tantissimo il digital download, cioè la mancanza di possesso, che come ben sapete fu per Alessandrino, da un sacco di tempo. Ho Sky, attraverso il quale guardo un sacco di film, e utilizzo Spotify, anche se all'inizio pensavo che fosse una minchiata infernale. Mi rendo conto che però l'utilizzo che faccio sia di Sky che di Spotify è molto effimero. Ci sono un sacco di cose che dico che so che guarderò una volta o che ascolterò così en passant, ma che non mi interessa dal punto di vista del legame affettivo col prodotto avere. Se invece, che ne so, domani esce, cioè non so, Guerre Stellari è già uscito in Blu-ray, però ripeto, Guerre Stellari in Blu-ray lo voglio possedere perché è un film a cui sono legato emotivamente. Il 21 maggio esce il disco di Daft Punk, io avrò copia in vinile, copia in CD e copia digitale, per dire. Esatto, e le avrei pagate tutte e tre. Sì, pagherò tutte e tre, prenotati tutte e tre. Vedi, perché giustamente tu hai un legame affettivo con il prodotto e vuoi possederlo, perché il possesso ti dà una sorta di legame più fisico, sì, con l'oggetto. In certi casi questo legame non è necessario, non è vincolante, per cui ben venga il digital download. Il problema è quando, dato che uno non compra l'oggetto fisico perché dà meno valore al prodotto, bisogna vedere quanto questo valore viene abbassato quando il prodotto viene scaricato e non viene posseduto direttamente. Ovvero, se uno va a comprare un CD costa 20 euro, se uno se lo scarica da iTunes costa 10 euro. Secondo me il giusto rapporto sarebbe 5, per dirvi, 5 contro 20, certo. Anzi, oddio, secondo me non dovrebbe costare così tanto il CD fisico, però perché vabbè. Questo poi è la cosa fondamentale, no? Perché soprattutto nell'ambito dei videogiochi, cioè giochi che escono a 60 euro te li vai a comprare, magari te li danno un digital download a 60 euro, cioè. E questo però secondo me, quando il mercato, se il digital download diventa l'unico mezzo fruibile oppure comunque diventa una parte preponderante del mercato, allora a questo punto non ci sarà più il mancato guadagno dovuto al fatto che uno il gioco lo rivende 10 giorni dopo che l'ha comprato perché l'ha finito, per cui la gente se lo compra usato, per cui è un mancato guadagno perché da parte del gioco. Ricordiamo che il problema fondamentale non è la pirateria, è l'usato che crea, esatto, il disagio. Però ma c'è direi, però di parlarne, ma abbiamo con calma. Sì, quello poi ne avremo proprio. Sì, dai, c'è però tempo, una bella puntata modo... pronta. Anche. Esatto. Scusami, quindi, un secondo, non però preoccupiamoci, questa... proprio un cenno questa... veloce, pro contro, sì, no, perché. No, ma... però scusa, ti aggiungo una cosa. Questa cosa dell'usato, però, ha a che vedere col fatto che uno il gioco non riesce a trovare un legame emotivo con il gioco, per cui c'è chi se ne frega, non mi ha comunicato. Per dirvi. Un Harry Potter, che è uno dei miei libri preferiti, ma io ce l'ho sia in italiano che in inglese e ce l'ho fisico l'edizione è quella fighetta, ma perché? Perché cazzo è un libro che mi ha dato l'avete letto? Sì, ho anche ascoltato l'audiolibro sperando di farmelo piacere e mi ha fatto ancora più cagare. Niente, piccola digressione, scusatemi, sono bambino dentro, ripeto, io questa cosa lo voglio avere, ripeto, ma tu hai detto di un bambino che poi tu picchi. Sì, ma è un bambino che sniffa, colla nelle fogne, cioè. Avete ragione. Comunque, no, ecco, chiudiamo qui la parentesi. Dal bambino, ok, no, quindi insomma c'è per il feticismo dell'oggetto, ecco. Sì, però anche se uno produce un gioco che è da consumare, che poi dopo non ti rimane. Non si deve neanche lamentare che poi uno se lo rivende, cioè dipende anche dallo spessore. Se ti fa cagare non vedi anche l'ora di venderti proprio. Sì, ma io vedo anche giochi che sono costati decine di milioni di dollari, che hanno un investimento abnorme e però non riescono a creare questa sorta di legame con chi lo gioca. Questo mi spaventa molto, cioè vuol dire che va bene tutto, va bene la massificazione eccetera eccetera, la marketingizzazione di tutto quanto, ma vuol dire che non c'è un qualcosa che ti smuove un minimo di emozione? Perché io ripeto, non so voi, ma ci sono dei giochi che vi hanno smosso delle emozioni e voglio vedervi a vendere un gioco che vi ha smosso delle cazzo, emozioni. Cazzo, semmai lo compri, fate, no? Lo ricompri un'altra volta in un'altra versione, è proprio il contrario. Esatto. Dipende. No, cioè, magari può capitare che c'è una versione su tutti quelli vecchi floppy e magari dai, ricompri CD ai vecchi tempi, per dire. Sì, ma te l'ho detto, quello è una questione, sono cose che faccio anche io, ma io magari tendo, ecco, per questo discorso tendo ad attenermi più ai videogiochi. Io personalmente sono pro per quanto riguarda i videogiochi, perché se non è la Collector Edition con cazzi a smazzi, non ho, come dire, nessun vantaggio nell'andare in negozio a comprarmelo, anzi devo andare in negozio, quindi mi rompo molto di più le palle. E per quanto riguarda altri oggetti come i vinili ad esempio, o non lo so, come i vinili, ecco, il primo esempio che mi viene in mente di feticismo fisico, abbastanza inutile, tra virgolette, però ecco, premetto in quel caso che io il vinile da punk probabilmente lo utilizzerò, no, ma non per l'ascolto, cioè proprio in serate e cose, anche se io lo prendo proprio per collezione, però no, perché ci stanno pure sì. Sì, ma anche io mi compro i vinili dei gruppi anni 70 che ascolto, e di qualche cosina in più, tipo come può essere Aphex Twin, cose così, per ascoltarli, ecco, cioè non per avere solo l'oggetto, ma nel caso dei dischi anni 70 erano registrati in quella maniera, è un po' come tipo avere l'originale, mettiamola così. Ma per quanto riguarda questo, per i videogiochi, appunto, come ho detto prima, non mi interessa la cosa. Il prodotto che io fruisco in digital download è il prodotto CD, DVD, Blu-ray, quello che è esattamente identico. Quindi non mi cambia a me personalmente utilizzare un supporto diverso, anzi, in questo caso qui più comodo. Mettiamola così. Ma direi a questo punto di passare una breve cenno sul digital delivery, come è nato, eccetera, eccetera. Quindi noi, il digital delivery, il concetto non è stato chiaramente estremamente diffuso sino a relativamente poco tempo fa, mettiamola così. È proprio un problema, ecco, di rete poi fondamentale, no? Perché sì, esatto. I primi negli anni 80. Sì, cioè chiaramente le memorie erano piccole, la tecnologia era costosa, non era conveniente per quei pochi utenti che l'avrebbero utilizzato creare un servizio costante come c'è adesso. Quindi negli anni 80 l'Atari 2006 creò il cosiddetto Game Line, quindi con un server centrale che affittava i videogiochi, utilizzando il principio piuttosto semplice del scaricare, una cosa che poi hanno fatto in seguito la Nintendo e la Sega, di cui parlerò tra un momento, quindi scaricare il gioco in una cartuccia e poi per il periodo in cui tu l'avevi affittato oppure l'avevi acquistato oppure tu avevi ogni settimana, nel caso di Sega e Nintendo, tu avevi la possibilità di scegliere tra un tot di giochi, ecco, mettiamola così. Tu sceglievi quel gioco, il gioco veniva tramite il cavo, come quello che della TV via cavo, che chiaramente in America c'è da appunto dagli anni 80-90, utilizzavano sempre questa tecnica per scaricare i giochi in una ROM, no, sì, in una cartuccia. Dopo averlo fatto, semplicemente ci giocavi e così via. Poi i giochi venivano sovrascritti senza grossi problemi di insomma di memoria, di trasferimento, eccetera. La Nintendo creò il Famicom Modem per il NES, la Sega creò il Sega Channel, o Sega anzi, diciamo, ecco qua, vi aspettavo al varco, e in modo da avere un, diciamo, cosiddetti giochi on demand. Tu sceglievi il gioco, te lo scaricavi, pagavi un abbonamento mensile, annuale, adesso non sono sicuro, e avevi anche accesso a certi giochi che erano specifici solo per il gioco online. Ad esempio in Giappone esistevano dei giochi o delle versioni di Zelda con ad esempio le musiche fatte da un'orchestra, eseguite da un'orchestra che grazie alle maggiori capacità del modem, di un piccolo, chiamiamolo hard disk, che utilizzavi per scaricarti i giochi, ti permetteva una qualità maggiore nell'audio. Anche la Sega, idem per i suoi giochi. Questo servizio poi è stato chiuso col tempo, ovviamente, ma erano tutte cose che funzionavano proprio bene, quindi non a finire nel giro di 3 anni no, tutto sommato, cioè, per duravano quello che anche erano, tanto, erano... Anche No, esatto, erano molto avveniristici e duravano tanto. Il successo l'hanno avuto soprattutto in Giappone, dove per queste cose qui sono abbastanza portati, diciamo. Però è molto interessante questa cosa, perché era proprio un mondo a parte. Avevi degli eventi addirittura creati tale giorno a tale ora. Era come una specie di mini community ante litteram, prima che esistessero tutte le varie community, vari Steam e così via. Nel 2000 poi c'è stato il boom, negli anni 2000. Quindi con quelli che noi conosciamo, partiamo con il PlayStation Network, Steam, Amazon, GameStop, Games for Windows, Origin, Good Old Games, il Marketplace, che stavo dimenticando, il Wii Shop, poco utilizzato, ma comunque esistente, poco sfruttato forse dalla stessa Nintendo, e comunque con una capacità di distribuire i giochi in digital download estremamente elevata, e avere la possibilità di poter fruire di questi giochi, come nel caso di Steam, anche cambiando piattaforma. Quindi nel caso di Steam, se tu giochi da tre PC diversi, il gioco è lo stesso, salvataggi in cloud, che quelli sono una cosa un po' più recente, quindi il tuo salvataggio viene uploadato in un server centrale, in modo da riuscire a... parte le limitazioni di installazioni, ne parleremo sempre in un altro episodio, tranquillo. Anche quello. Quindi insomma, digital download, digital distribution ha avuto i suoi prodromi negli anni 80-90, per poi diventare una realtà ormai a sé stata in questi ultimi tempi, e probabilmente anche un futuro per il mondo del gaming e in generale della distribuzione di tanti e tanti tipi di cose, di supporti, mettiamola così. Quindi detto ciò, quindi io direi di passare al secondo punto, cioè a che cazzo serve il DLDD? Esatto, il digital download, il digital delivery, ci serve, ce ne facciamo qualcosa. La vita i fruttori sono quelli che raccolgono la frutta, certo. Capito? Esatto. I fattori. Quindi che vantaggi abbiamo rispetto ad andare nel negozietto e comprarci il gioco, a parte che conosciamo il tizio e che comunque non ci farà degli sconti, perché anche lui deve mangiare, quindi non ci farà degli sconti. Ma al di là di questo, quali sono i vantaggi del digital download secondo noi e quelli del fisico? Adesso, senza magari ripeterci troppo, nella teoria. Nella teoria, cioè che cosa dovrebbe dare in più i pro e i contro del digital delivery, perché dovrebbe essere meglio, oppure perché è meglio la copia fisica? Quanto riguarda i videogiochi, ovviamente. Se non sbaglio, all'inizio, poi magari sto dicendo una cavolata, però all'inizio il digital download era stato proprio pubblicizzato come qualcosa che avrebbe dovuto far diventare i giochi più economici, quindi dove abbattere sostanzialmente il prezzo dei videogiochi, perché sai com'è, le scatole costano, la catena di distribuzione costa, la filiera costa. E quindi in teoria doveva comunque abbattere normalmente tutti questi costi. È come quando ti dicono vai a comprare la frutta dall'ortolano che risparmi. Questo, a meno che non c'ha il cetriolo, che quello è brutto. Però. Quindi teoricamente doveva essere questa, diciamo, la cosa, diciamo, quello che saltava più all'occhio. Diceva che costa di meno, è utilissimo. Poi ovviamente doveva essere, se sono unite, come dicevi tu, appunto, la possibilità di avere salvataggio online, di avere sempre la copia disponibile, tra virgolette, ovunque. Quindi insomma, più o meno penso che fossero questi, le cose positive del digital download. Non so se volete accennare qualche altra cosa che magari sicuramente ho accannato. No, io volevo sentire l'opinione di Simone Cognome e anche di Alex Cognome dopo. Ma su quello che ha detto Marco, su quello in generale su che cosa serve sul digital download. Ma io penso che i vantaggi I vantaggi siano proprio quelli di eliminare un paio di passaggi della filiera, ma non tanto a livello economico, che ci siamo resi conto che alla fine, a parte Steam, ma perché probabilmente è proprio una concezione di Steam e di iTunes, ma diciamo che c'è anche quello, cioè io parlo di più grossa, le più grosse mi vengono in mente, e quindi nel momento, per dire che nel momento in cui Steam decide di fare una campagna di abbattimento prezzi, ben venga, nel senso che nei saldi non sappiamo tutti, o almeno chi sì. gioca, esatto, nel momento le fanno davvero i giochi scendono davvero di prezzo, esatto, cioè, nel momento dei saldi di Steam non è una presa in giro, esatto, c'è, cioè, da rimanere stupiti, e mi sembra, potrei dire una cazzata, ma mi pare che lì decida Valve, nel senso che quando tu metti il gioco su Steam è previsto nell'accordo, nell'EULA che tu fai con Steam, che loro possano decidere il cambiamento di prezzo, almeno nei saldi. Però, potrei dire una cazzata, però. E invece con iTunes mi sembra che decidano i Pedro. Ma sono caduto? Pronto? No, ci sei, ecco. Stiamo ascoltando. Invece con Steam, con iTunes, non aver paura del silenzio, perché il silenzio è tuo amico, certe volte. È mio amico, esatto. E, mentre appunto in iTunes sono abbastanza sicuro che invece chi il publisher, il publisher, che poi sei te stesso, che decide le eventuali scontistiche. Per cui sì, ti posso confermare. Ecco. Per cui, con altri servizi, te dico, per esempio quello della vendita di video, di foto di stock, è una clausola che puoi accettare o non accettare al momento di quando sottoponi il tuo materiale, se questa può essere messa nelle offerte speciali oppure no. Ah, ecco, vedi, questo non. Quindi penso che anche per Steam sia la stessa cosa. E rimanendo in tema, questo, dicevo, dà un'effettiva spinta e al mercato, e quindi è positivo. Dall'altra parte, la cosa più vantaggiosa secondo me è proprio quella del esce il gioco, io non devo andare a fare l'apertura come si faceva per il, che ne so, io quando lavoravo da Ricordi mi capitò una sera di fare l'attesa Ricordi Media Store, quelli che vendono i dischi, esatto, del disco degli U2, c'era l'apertura fino da mezzanotte per l'uscita, e quindi tutti lì in attesa, era il 2004, che già è tardi per i digital download, però insomma, diciamo che c'era questo lancio dove tu facevi la fila e ti compravi il disco appena uscito, magari con edizioni anche limitate, che poi ce n'era gente, per curiosità. Sì, beh, certo, sì, ce n'era gente. Su una città di 3 milioni di persone fai 80-90 persone, non è che hai fatto proprio. Beh sì, quello è. Però dipende, insomma, dipende. Poi lì, essendo poi era piano centro, quindi comunque era anche una cosa mezza turistica, insomma, faceva. Perché poi tu entri, non è che magari ti compri il disco, però poi nel frattempo vedi l'offerta del disco lo sconto su un altro disco, cose del genere, quindi insomma. Però sì, facevano in alcuni casi facevano bei numeri. Io ultimamente stavo vedendo anche quando viene l'artista, per dire, a firmare la copia del CD, è pieno. Per esempio è successo con Fedez, non so se conoscete questo nuovo rapper. Ah sì, cioè ho letto il suo nome, ma questa musica, tra l'altro, di giovani, tra l'altro un l'ho po' visto da amici l'altra non dico sera, lo consiglio, ma piano piano magari provate a sentire qualcosa, perché comunque non è proprio esattamente banale, ma insomma non è il momento di parlare no di comunque, questo prego. E però dicevo, scusa io ti interrompo perché questo è il momento di parlare di Mass Effect. Prego, proseguiamo. Dicevo, insomma, era pieno di lì c'erano state 700-800 persone per farsi firmare il CD, quindi diciamo che ancora forse da qualche parte ha appeal, come anche in alcuni GameStop so che ci siano iniziative del genere, anche se io effettivamente non ci sono mai trovato dentro. Comunque dicevo, quello per me è una grossa cosa. Mi ricordo quando feci come regalo alla mia ragazza la Cataclysm, l'espansione di World of Warcraft, che scaricò prima e venne attivato alla mezzanotte del giorno, e noi stavamo, cioè lei più che altro, però insomma stavamo lì a aspettare che partisse. Eh sì. Ed è un po' quell'evento, però già da quella cosa dell'evento che tu stai facendo da casa in tempo reale, dove poi tra l'altro con tutta un'altra, specialmente nei morp, che è ancora più mastodontica, perché è pieno di gente che lo sta appunto Stefano ne sa qualcosa. e quindi dico, e quella cosa è, quel concetto è molto buono, perché c'è chi lavora, chi torna a casa, chi sta lontano da un negozio fisico, chi deve aspettare il corriere, non gli va, chi, eccetera eccetera eccetera, quindi il tutto diciamo è subito, non è male. E in alcuni casi effettivamente le scontistiche ci sono, quindi io lo vedo tutto sommato positivo come fenomeno, e lo vedo come un concetto parallelo che forse entro breve sostituirà il concetto che c'è stato fino ad oggi. Non so se sparirà quello, credo che si sostituirà in, che ne so, ti vendo la scheda con un codice per sbloccare, e insieme alla scheda ti vendo delle cazzate laterali, oppure ecco, se vieni le famose cazzate laterali, cioè. Sì, tipo il pugno di lato, sì, per dire, ti regalo il pupazzetto, ti regalo l'action figure, e magari ancora hai un appeal, oppure se lo vieni a comprare c'è l'incontro con, oppure c'hai il DLC già sbloccato, cioè sicuramente troveranno una forma intermedia da quello che era prima a quello che potrà diventare. Non penso che cambi di punto in bianco e chiuda GameStop nel giro di così poco. Ho parlato anche troppo. Alex Succaro, vedi che abbiamo fatto bene a chiamarti, perché tu sei, tu parli tanto. Il nostro nuovo Vater. Il nostro nuovo Vater. Vater. Alex Succaro Cogliuccio, cosa ne pensi? Pro e contro, beh, secondo te è meglio l'uno, meglio l'altro? E perché è meglio l'uno in quel caso piuttosto che l'altro? O meglio il libro? Esatto. Mi allaccio al discorso di cognome Andreozzi, che secondo me il signor GameStop in questo momento c'ha il culo che gli proprio stretto. Perché non oggi, non domani, ma fra 5 anni secondo me non esistono più. Però loro già hanno comprato Kongregate, che è tutti i giochi in flash, no? Sì, però sì. Ripeto, dal mio punto di vista, penso di sì, se lo tengono così, sì, effettivamente. I vantaggi sono innumerevoli, perché prima di tutto perché c'è meno oggetti fisici stampati, e meno carta, meno alluminio, insomma. Meno CO2 introdotto nel mondo, già questa è una cosa buona. Però i server ne producono. Sì, è vero anche questo. Però il server soltanto per la parte download non è così, non consuma tanto. Ma neanche tanto, è la potenza di calcolo online, quella, cioè appunto il fatto che tu giochi online, quello sì, consuma tanta CO2. Però vabbè. Però non lo so, potremmo fare una puntata sul CO2 consumato, quanto noi videogiocatori uccidiamo la natura, probabilmente tanto. Ripeto, se l'oggetto è un oggetto che ha un valore di un certo tipo, ben venga il digital download. In che è senso, molto se comodo, di un certo tipo, scusa, ma sì, ripeto, se non c'è valore affettivo, c'è un valore di un certo, okay, limitato. Ripeto, se domani uscisse su, perché non ho fatto il tempo da vedere al cinema, e siccome adesso i film al cinema stanno fuori 3 giorni, Iron Man 3, esce in digital download a 8 euro, ma sì, glieli do anche. Se esce a 25 dico, ma sti grandi cazzi, anche perché se dopodomani mi muore il decoder di Sky, fanculo, è un casino poi riaverlo. Oppure se per qualche motivo il detentore dei diritti di Iron Man dopodomani dice ok basta, e tu non te lo sei scaricato, non te lo puoi scaricare più. Cioè il problema è questo, che chi ti garantisce che la piattaforma da cui scarichi fra 10 anni esiste ancora? Anche fra 5 infatti, anni, cioè, teoricamente. Ma anche tra 3 mesi o stasera, perché... Ok, io sto pensando ai due colossi che potrebbero essere Microsoft e Sony, cioè uno si augura che fra 3 anni ci siano ancora questi cicci qua, ma fra 10? Vabbè, chiunque sia su internet dovrebbe aver capito che in internet niente è per sempre, quindi... Beh, teoricamente... Solo le figure di merda, quelle sono... Teoricamente, teoricamente cioè, anche il fisico ha lo stesso problema, perché comunque tu c'hai il supporto... Anche il fisico nostro, proprio. Quello, l'entropia potrebbe essere, tutto, eh. Sì, potrebbe essere, cioè. Che il nostro fisico regga molto di meno di Steam. Sì, però secondo me qui dentro ci sono quattro persone che hanno giocato qualcosa che di retro gaming di vecchio di 20 anni. Sì, sì. 20 anni no, però 15 sicuramente sì. Sì, sì, sì. Il problema è che ci giocano ancora. Non abbiamo mai smesso. Com'è che chi è che diceva che le foto da quando non vengono più stampate si perdono? È vero. Io ho delle foto mie o dei miei genitori o dei miei nonni, ma secondo me, cioè ripeto, se non hanno più lo stesso valore. Fosse nascoste. Esatto, ma se ci fosse una scossa di terremoto nel mio qui adesso, cioè io perderei una vagonata di foto scattate negli ultimi 5-8 anni, perché non le ho stampate, perché sono lì, sono byte digitali, mettile su Facebook e si perdono. Diventano di proprietà di Zuckerberg, esatto. Però le vedrai sempre. Esatto, sì, okay. No, ma non è la stessa cosa. Non credo che sia la stessa cosa. No, no, io mi chiedo in futuro la generazione che vuole vedere una foto. Metti che io posso vedere la foto di mio bisnonno, per dire, fatta all'epoca, però mio bisnipote potrà vedere una mia foto. E soprattutto, cioè, perché vorrebbe vederla? Perché vorrebbe vedere me? Per vedere, per capire di chi è colpa il fatto che sia così brutto e stupido. Penso per quello, da morto. Sì, esatto, però dico, e anche col digital download mi chiedo, ok, adesso hanno trovato il modo, ad esempio nel 3DS c'è la possibilità tramite Virtual Console di giocare i giochi per NES, ad esempio, tramite una sottoforma di emulazione, quindi comunque una certa retrocompatibilità mi sembra che venga sempre garantita per quelli, per i vecchi tristoni come noi che continuano a dire si stava meglio quando si stava peggio e le cartucce arrivavano in orario in quei tempi. Calcola che questo però è un discorso che, cioè, perché per i videogiocatori magari potrebbe essere, come dici tu, una cosa simpatica quasi, giocare vecchi giochi, però tu calcola applicato nel film o nella musica. Se va a scomparire il supporto fisico, poi magari io, se mi voglio vedere un film di Charlie Chaplin, magari nessuno lo tiene più. Ragazzi, lo perde, ci sarà, io credo che ci sarà in qualche maniera la possibilità sempre di, cioè non lo do per sicuro, non è che ci metto la mano sul fuoco, però secondo me anche solo per tutto il mercato dei supporti ci sarà, magari comprerai, aspetta, ci sarà la possibilità di avere la copia fisica tra virgolette o digitale, nel senso magari ci sarà come i giochi PlayStation Vita, ci sarà la schedina dove tu ci avrai il film che metterai nel tuo televisore, che non ci avrà più il lettore a parte, ma ci avrai, che ne so, lo slottino dove metti la scheda e ti vedi il film, cioè magari ci sarà una cosa del genere, oppure qualcosa di simile anche legato al digital dove tu compri effettivamente, allora magari lo vai a pagare diversamente. E credo, poi questa è un'altra stupidaggine, potrebbe essere, però credo sia la differenza tra acquistare e noleggiare il film su iTunes, nel senso che tu per esempio su iTunes quando lo compri lo paghi considerevolmente di più, ma credo che diventa un file tuo e non sia una licenza come l'affitto, come il noleggio dei film, parlo dei dischi, della musica, onestamente. Ah, io credo che anche quello, perché hanno tolto il DRM, no, cioè non lo so perché, no, non ho mai non comprato sono il... Beh, perché comunque nel mio caso c'è il noleggio, semplicemente che dopo un po' non lo va più a vedere, basta, cioè, beh, no, appunto, invece quando lo acquisti ti rimane in hard disk e te lo puoi riscaricare quante volte sì, vuoi. Sì, però non è che è tuo, non è che poi diceva, sai che c'è, te lo regalo a te, al vicino di casa, non penso che comunque le limitazioni invece penso che siano, guarda, i DRM su iTunes l'hanno tolte, questo so piuttosto sicuro. Sui film non lo so, sulla musica sicuro. Non se sì, l'atto. Abbastanza. Però sai che sui film sono un po' più rompicoglioni. Penso, no, di sì, anche perché sì. Poi là c'è un problema a monte, che sono chi detiene i diritti nei paesi, perché poi sapete che per la cinematografia è ancora un dramma ancora più grosso in tutta Europa, in tutto il mondo. In Europa poi non ne parliamo. E poi, prego, scusa, finisci. Però io penso poi che avere un concetto, scusami Ste, poi mi taccio. Avere un concetto, no, no. Tipo anche quello che è Netflix, cioè da noi non esiste proprio per i problemi di diritti. E invece fare un po' di legislatura in questo senso, secondo me sarebbe fondamentale, perché tolti i videogiochi, infatti poi magari sto andando off topic, però tolti i videogiochi che ancora non sono, rientrano nell'ambito cultura, ma anche se entro breve secondo me c'entreranno, ma per ora non entrano nell'ambito cultura. Vorrei ricordarti chi abbiamo votato in Italia le ultime elezioni. No, vabbè, poi no. Ne riparliamo. No, no. Sull'ambito cultura. No, vabbè, ok. Si parlava del mondo, forse. Diciamo. In Europa, il problema è in Europa, Alex. Mi salvo così, nel senso che in tutta Europa mm-hmm. il problema è simile, quello dei diritti. E per cui dico, concetti come Netflix sarebbero veramente l'abbattimento di delle barriere allucinanti che esistono nel paese, nel nostro continente. Considera anche che tu su iTunes ti scarichi e ti vedi le serie TV in HD, no, che le devi cercare su torrent, ce l'hai il giorno che escono, come ti pare, con tutte le qualità, le cose, cioè no. Sono cose anni luce avanti rispetto a... Sono il primo a sperare che prima o poi Netflix arrivi in Italia. In realtà c'è la versione minimale che è MySky. Sì. Sull'on demand stanno facendo un lavoro abbastanza buono, devo dire la verità. Sì, ma è un po' un cazzetto rispetto a Netflix. Cioè. Sì, è un cazzetto, però devo dire che se per i loro primi 6 mesi di vita... Come stanno? Ecco, per essere una cosa italiana appena nata, è vero, è ben fatta. Beh, ma Sky, purtroppo, a parte la proprietà, è sempre funzionato in una certa maniera. Comunque, magari cercando di rimanere in topic, anche il fatto che Nintendo si sia svegliata e quindi vende le console... non so se avete visto, per me il 3DS lo vendono preinstallati i giochi sulla SD e tutti sono in copia anche in eShop. Certo, poi non li vendono con dei prezzi non applicano dei prezzi fattibili, perché lo paghi come il fisico, quindi è veramente una presa in giro. Però se anche Nintendo, che è proprio la culla dei casual, comincia a muoversi da questa parte, forse le speranze che qualcosa cambi nel giro di poco ci stanno, insomma. Sai, il problema credo che sia una questione di massa critica. Se Nintendo decidesse, ok, il prossimo Mario lo facciamo andare su digital download al 30% del prezzo, anzi al 50% del prezzo del fisico, avrebbe un senso. E il problema è che loro credono, e probabilmente hanno anche ragione, che il loro pubblico non è sufficientemente pronto. Cioè, loro hanno venduto una fracassata di Wii, perché c'era la gente che metteva dentro il CD, non so su che supporto stava sta roba, DVD. Qui. Sul DVD, vabbè, però una roba rotonda, perché vai a spiegarglielo, okay, tu qualcuno. Sì, sì, sì. Metti dentro una roba rotonda e fai sport, cioè... Questo è la cosa. Vai tu a spiegare che se attacchi un cavo di rete dietro il televisore, e cioè questa la maggior parte della gente non lo collega. Io che sono rincoglionito, ma sono un single, ho il cavo di rete attaccato dietro MySky, ma quanti altri in una modalità domestica hanno questo tipo di roba? Beh, non penso, cioè insomma, persone come noi, diciamo. Infatti, esatto, Alex, noi e i giovani. Alex c'entra il punto, perché il problema non è tanto attuare politiche del genere, secondo me. È una cosa che ho detto pure, vabbè, insomma, una cosa che mi capita spesso di pensare. Il problema è attenuare, cioè levare più filtri possibili al concetto, nel senso, come dici tu, io sulle shop di Nintendo, per dire, posso comprare il gioco online, ma anche su Xbox Live per me e PS Plus non l'ho visto, però per quelli che conosco io, anche su Xbox Live per fare un acquisto online è difficile. Nel senso, devi entrare, la connessione, che sta succedendo? Sì, che dove? Violenza secondo domestica. Secondo me Pizzi e Gualdi stanno litigando, pestandosi modello è entrato, coreano. Sì, Pizzi è entrato effettivamente in stanza, però stava mangiando un toast. Cioè, forse era lui che masticava. Sì, ma il toast li mangia spaccando le sedie. Cosa infatti, fa? Io pensavo che qualcuno stesse guardando i primi 2 minuti di Kill Bill. Esatto. E quindi, dicevo... il problema è che è anche proprio difficile l'interfaccia, nel senso, io devo entrare con Xbox Live, devo entrare, cercare il market, cercare come sono divisi l'indice, come è diviso, andare a cercare la cosa che mi serve, comprarla, se non c'ho i punti rimettere i punti, mettere la carta di credito, cioè è proprio sbagliato il concetto, secondo me, per quello. Quindi, che tu ti togli la secondo metà. Me quanto è fruibile il digital download oggi? È fruibile, ma è fruibile da chi lo sa fare. Voi non voglio tornare sempre, ma Apple lo sa fare. Microsoft, esatto, dipende da chi fa. L'infrastruttura di Apple funziona, funziona alla grande. E infatti stanno facendo una vagonata di soldi, molto più di quanti ne sta facendo Android, ma perché il loro marketplace è meno fluido, diciamo, meno intuitivo. Sì. Ma, oltre al fatto, sì, che aspetta, appunto, ma è quello di Android, dice, meno intuitivo. Sì. Ma io... Vabbè, oddio, magari negli anni è diventato relativamente anche... Ma tu sei un power user. Ah, vabbè, non lo so. Pensa cosa mia mamma potrebbe comprare su iTunes, ma non credo che potrebbe comprare su Android store. Però dipende da quale Android, come al solito, poi. Perché magari su quello dell'S3 magari sì. Sì, su Samsung. Sì, ecco, cioè è abbastanza sull'S3, è abbastanza che ho io fattibile. È proprio da ignorare, è come iTunes praticamente, cioè clicchi sull'icona, gli dai soldi e ci arrivederci. Capito, è quasi a livello di iTunes, anzi è a livello di iTunes, manca della quantità del parco programmi, però è un'altra questione questa. Però ecco, secondo me è fruibile anche dall'italiano medio, cambia chiaramente, però deve avere questo tipo di marketplace. Con iTunes, cioè, hai lo stesso market in tutte le periferiche. Tra l'altro, quindi questo, cioè, chiaramente aiuta. È quello il problema principale, secondo me, ad oggi. È farlo entrare nell'abitudine delle persone. Le abitudini delle persone l'utilizzo. Per dire, anche io vedo, sempre parlando di giochi, cioè il concetto non è lo stesso, però io vedo anche nei giochi. Ci sono un sacco di giochi mobile che magari potrebbero essere validi e fruibili, ma una facilità d'accesso come quella che ha avuto Razzle non ce l'ha avuta nessuno, nel senso che tu in tre tap giochi. E questo, io vedo mio padre, persona grande, la compagna di mio padre, sa, grandi, piccoli, anziani, che alla fine giocano perché è semplice. Sì, perché è semplice, sì, prenderlo, giocare, scaricarlo, è semplice capire le regole, è semplice. Già Quiz Cross, che è della stessa casa, non so se conoscete, che sì, ho fatto provare, sì, oggi, sì. Già lì, che è uguale, identico, le grafiche sono identiche per impostare la partita, già lì comincia, per due o tre errori che hanno fatto loro, secondo me, di partita, già comincia, no, non lo so, questo no, e comincia a creare una barriera. Io la vedo molto più... Quindi, cioè, la sfida la vedo molto più in quel campo che non... Il problema fondamentalmente, dici, come è chi te lo dà. La fruizione. Chi te lo dà. Se chi te lo dà è una persona che è un software house. Se te lo dà bene. Che te lo dà bene, è una che te lo dà sempre. Allora anche l'utente medio ne sarà soddisfatto. Dici. Secondo me è quello, sì, perché oggi con una 7 megabit tu puoi usufruire anche di uno streaming. Ma chi streaming è che ha la 7 megabit in Italia? Cioè, no, quanti hanno? Beh, no, dai, solo una 7 megabit. 7, dai, ci sta. Dai, per favore, 7 megabit è proprio... Io non ce l'ho. Cosa ci scarico? Però vabbè, comunque... Tu non ce l'hai. Dico che, io non vi dico che cosa facciamo così. Vabbè, voli. Lascia stare. Cablecom, non diciamo altro. Comunque... Vabbè, cose belle. Diciamo che a me, per me Fast Web è lento in fibra, quindi comunque. No, ecco, però ecco, anche questo qua è un altro problema, cioè nel digital download cambia. Se io devo scaricarmi 25 giga di un gioco per PlayStation 3, per dire, con la linea che ho io, è un ci conto. Metto comunque un po' di tempo. Ecco, cioè io ci metto un po' di tempo, però dico, vabbè, dai, cosa ci metterò? 25 giga, non lo so, ci metto qualche ora, anche io, chiaramente, perché cioè, comunque non ho... vado a 3 mega al secondo, però... 3 megabyte, però... no, dico, però comunque è quello che è. Cioè, non è... Sono comunque 25 giga, mettiamola così. Quindi, invece, se io ci metto... Cioè, vado sui 100 mega al secondo... E mi sparo in testa, sinceramente, perché ci metto tutta la notte, con la sfiga che magari succede anche qualche problema, e allora lì mi passa la voglia del digital download, me ne vado al negozio e me lo compro. E questo è il problema, cioè deve esserci anche una certa infrastruttura attorno, che permetta, diciamo, che la forse anche come cosa. Dici tu il videogioco è più avanti di quelle che sono le reti, cioè sì, più evoluto, sì, sì, di cioè, quello che sono le reti che potrebbero ospitare il digital download. Esatto, cioè bisogna tenere conto di tutte e due le cose. È chiaro che il gioco per iPhone, esagerando, cioè il più grosso quanto occupa 2 giga, sì, il Infinity Blade, ecco, ed è già un caso abbastanza particolare, però quanti ce ne sono che occupano questo, tutto questo? Poco. Quindi anche con qualunque linea, cioè i giochi per il cellulare me li posso scaricare anche in giro con la rete 3G senza problemi, tutto sommato. Ascolta, due cose, secondo me. Allora, se tu c'hai la connessione di merda, tu ascoltatore, sì, sì, non sì, tu. Sì, sì. Cioè chiunque, se uno ha una connessione di merda è un problema. Però tutti quelli che si occupano di digital delivery si appoggiano a infrastrutture esterne, quelle potrebbero essere Amazon S3, per dirti, la prima che mi viene in mente, che se ti dà proprio, ti riempie la banda e proprio ti fa capire che qualunque cosa tu abbia, anche la super fibra di Antani che c'hai tu, cioè dice sei tu che sei piccolo rispetto a me, se tu sei l'imbuto. Altra cosa però, secondo me la furbizia di chi sviluppa è che se tu pensi di fare un gioco di 25 gigabyte, fai la furbata che fai il download progressivo, intanto che giochi il primo capitolo sta scaricando il secondo, per dirti, quello, primo livello. Quello è il concetto di PlayStation 4, pare. Questa è una cosa. La seconda cosa è come appunto fa Sky, nel senso, io non ti dico un cazzo, io ti scarico dalla roba, poi se tu la compri, lo attivi, magicamente te la ritrovi lì. Cioè, MySky ha sempre fatto, fino a poco fa, quando c'era soltanto via satellite, comunque lui di notte ti scaricava le robe e te le lasciava lì, se tu le volevi vedere te magicamente ce l'avevi on demand. Era un on demand minimale, però ripeto, la filosofia è un po' questa. Mi piace l'on demand male, cioè, tipo l'on demand però esatto, minimale così. L'on demand fatto diciamolo dai, nel sud Italia possiamo dirlo, insomma, abbiamo il coraggio di dire le cose. Il mezzogiorno, il problema del mezzogiorno, dell'on demand nel del sud mezzogiorno o nelle isole. Esatto, a sud e nelle isole, come il meteo, come le previsioni. Esatto. Comunque sì, ecco, cioè l'on demand, perché dici fatto male? Adesso mi viene la domanda. No, era minimale, forse mi siamo capiti. No, ecco, pure detto minimale fatto, in che senso? Perché non era proprio puro, cioè l'on demand è voglio vedere quello e viene scaricato. Quello è io ti scarico i 10 contenuti più visti o che mi sembrano più fighi. E a questo punto, se tu proprio vuoi vedere quella roba lì, magicamente te lo trovi invece di aspettare l'orario di partenza. Questo era per Sennò per intasato di hard disk sbafo. Sì, nel senso, queste cose sono sempre parametrizzabili. I Mac adesso, se tu gli dici ok, quando arriva l'aggiornamento te lo scaricano senza neanche chiederlo. Mannaggia loro. Beh, però prima di installarlo te lo dicono: oh, guarda che ho scaricato sta roba. Sì, ho capito, nel frattempo tu ti impazzisci e cerchi di capire perché la telefonata su Sky va una merda, perché non riesci a vedere un filmato su YouTube, specialmente quando c'è problemi di linea. Adesso sono passato a Telecom e pare che questi problemi non ci siano. Mi gratto a pelle perché questa magari è pubblicità occulta, eh? No, magari, ma guardate, datemi qualcosa Telecom senza occulta. Anche io, Simone Cognome, uso Telecom Italia. Non me frega niente. Però ma non ti trovano sull'elenco perché tu sei Andreozzi, non sei Cognome. No, loro c'è che Simone Cognome. Esatto. Mi trovano. Tu. Comunque, immagina nella form che riempiono, dove sai quando c'è scritto in semitrasparente nome e cognome, la c'è Simone, bianco, cioè, e lì cognome è già scritto. Io c'ho la mia mail, è così. La mia mail di 8 mesi. Vabbè. E dicevo, ah sì, e quindi è una rottura di coglioni quando Apple dice basta, ti lascio parlare. No, sono anche d'accordo che non avere il controllo sulla macchina, però io penso che ormai il mondo è nelle mani dei bimbi minchia, o quelli che una volta erano bimbi minchia adesso sono adulti minchia. Sì. Per perché che il problema che è che si riproducono anche, quindi sì, okay. sì, loro non si mettono dubbi nel senso. Cioè io se devo pensare di fare un figlio, dico, ma sarò all'altezza. Invece il bimbo Mickey dice, oh, fa un culo. Sono già 5 anni che l'ho fatto e non ho ancora la patente, capito? Ma sì, ecco, quello. Per cui ripeto, sì, la gente non vuole stare lì a pensare, ma sì, funziona. Cioè, l'approccio di Apple è quello. Apple una volta, cioè, nella mia generazione, era la marca per quelli che, per i professionisti, adesso è la marca per quelli che non ci vuole di pensare. Infatti, think different, sì, quello è vero. Beh, sì, sì, Vabbè, è la presentazione di PlayStation 4. Ma non è un male anche quello. Cioè, il fatto che comunque all'interno del Digital Delivery si occupino di tutto loro, io gli da badare i soldi, e cioè al negozio, io mi occupavo di andarci, comprargli il pezzo, il DVD e tornarmene a casa e metterlo. Io vorrei fare la stessa cosa senza avere il problema della compatibilità di questo e di quello. Cioè, sì, nel senso, tolto chiaramente, se provo a mettere un disco, un gioco dell'Xbox nella PlayStation 3 non funziona, non vi lamento, mettiamola così. Però, tolte queste cose qui, vorrei avere lo stesso tipo di trattamento e, insomma, senza tutte quelle rogne. Per quello dico, non è un grosso... Guarda, cioè non è un male, ragione. Il fatto che in parte sia chiuso. Da un certo punto di vista io accetto questo compromesso in cambio di una mancanza di problemi, ecco. Cioè io rinuncio volontariamente al fatto di non essere completamente libero in cambio di una maggiore semplicità, di una maggiore semplicità di fruizione, di una mancanza di errori, di virus, di questo e di quello. Tu sai che la maggior parte delle dittature iniziano con una frase come questa? Sì, questa è un po' la questione hobbesiana della politica, paura, sicurezza, che sai adesso. No, comunque, a parte questo. Vedi, io sono ignorante. No, scherzi a parte, quello che ho detto è vero, però è anche quello che ha detto Alex è vero. Il punto è che... Quello che ho detto io? No, è anche quello che hai detto tu. Sono tutte così. Soprattutto quello, avete solo detto verità, non preoccupatevi. C'è tanta verità in questo. No, a parte questo, cioè il fatto che io posso scegliere, cioè io ho avuto iPhone, faccio un esempio, sino a 2 mesi fa, 1 mese fa, adesso mi sono preso un Galaxy e vivo felice lo stesso, ragazzi miei. Nel senso, l'importante è che io possa scegliere. Ma di più o di meno non lo so, perché le cose, tutti e due i dispositivi hanno i loro pregi e i loro difetti. Per quanto riguarda il Digital Delivery, ad esempio, non cambia niente. Cioè, io nel mio rapporto col Digital Delivery tra iPhone e iPhone 3 3G, quello che avevo prima, e il Galaxy S3, più o meno lo stesso. Non cambia niente, cioè metti la carta di credito, compri il coso, non cambia nulla. Ci c'è soldi e tu sei contento, loro sono contenti. Sì, esatto, cioè loro sono contenti, io sono contento, siamo tutti contenti, che problema c'è? Cioè, quindi in realtà alla fine c'è anche forse una forma di... ci stanno anche un po' uniformando queste cose, il che appunto da un certo punto di vista è un male, perché forse non permette una grande varietà di scelta, ma è anche un bene perché... Il modello Apple, secondo me, è un modello estremamente funzionante, come stavate giustamente dicendo prima. Cioè, chiunque lo può utilizzare, nel bene e nel male della cosa, purtroppo. E tramite questo modello qui ti permette anche di non doverti rompere le palle con software complessi per scaricare i pacchetti per Android o le IPA per iPhone e così via. Ripeto, pregi e difetti della cosa, io non sono un fanboy di niente praticamente, credo, quindi vivo nel... come dire, no, vivo, faccio l'ignavo, cioè è il coso, finirò nell'inferno degli ignavi perché non prendo una posizione da questo punto di vista, valuto quello che è meglio per me, poi non me ne frega niente a me di quello che fa, cioè se una cosa Apple è migliore e mi piace di più e la trovo più adatta a me, la prendo. Se appunto all'inizio probabilmente il marketplace di Android, io non lo conosco, quindi sto parlando per ipotesi, probabilmente era un po' più macchinoso rispetto a quello della Apple, e quindi chiaramente magari uno si trova più portato a prendere un iPhone, per dire, hanno imparato dei loro errori, adesso sono più o meno uniformati. Non è in certi casi l'uniformarsi non è male, in certi casi, se chiaramente hai la possibilità cioè sei sempre una possibilità diversa, è chiaro, cioè se vuoi scegliere una terza, una... sì, esatto, io voglio sempre avere una terza o una quarta alternativa se possibile, oltre ad Android e all'iPhone e anche al loro interno io magari, essendo uno smanettone, mi metto la ROM di Android modificata con da me questo e quell'altro, insomma mi dà la possibilità di farlo, quindi ci sono vari modi, vari livelli di uniformarsi. Comunque uno dei problemi, tornando un po' in topic, non so, però mi è fatto venire in mente una cosa proprio per riguardo l'alternativa, è che uno dei problemi che si rischia, dove qui forse tutte le leggi dell'antitrust andrebbero poi riviste o modificate, insomma, riapplicate, è proprio degli store, perché poi alla fine si riduce il potere in mano a pochi, che questo potrebbe essere un rischio, secondo me. Che decidono, pochi che decidono, esatto, prezzi. Sì, come sì, sì. C'è un cartello, si fa un bel cartellino e tu sei fottuto, perché mo, lascia stare che Steam funziona, ma pensa a Origin di EA. Cioè, lì che schifo. Sì, ancora non hanno capito, ma nel momento non succede, ma nel momento in cui Steam che ne so, attacco hacker, fa 2-3, fa tipo il jailbreak. No. Il, come si dice, blackjack. Cazzo sto dicendo? Blackout. Sì, vabbè, tipo il crollo che ci fu di PSN. Ah, no? Breakdown, ecco, del PSN. Okay. Fai conto, fanno una cosa del genere, un attacco DOS e roba del genere su per Steam, e sì, Origin diventa la piattaforma di riferimento. Siamo fottuti, perché manterrebbe quel tipo di prezzistica e quel tipo di atteggiamento di merda. Vanno a piccola soli, cioè non è che... Cioè... ma guarda che non lo so, perché poi pur di comprare, pur di avere quei servizi, tu non guardare l'Italia, che magari siamo un po' più svegli, ma tu pensa ai paesi anglosassoni, lì si accoderebbero, certo, con mille difficoltà, ma la gente si accoderebbe, secondo me. Vabbè, ma se non c'hai vantaggi... Ha capito, ma se non c'ho vantaggi rispetto magari al retail, vado su retail. Cazzi. Ah, beh, certo. Se ma devi comunque dare dei vantaggi, no? Sì, beh, sì, non sarebbe motivo per farlo. Quello sì. Però insomma, abbiamo tolto questo fatto, è proprio l'estremo, l'estremizzazione assoluta. Dico, però, il concetto di. Come dire, di impedire un cartello, appunto, impedire il potere di uno su molti, perché poi non solo ce l'hanno verso l'utente, ma ce l'hanno anche verso verso i sviluppatori. E questo è un bel problema che si può venire a porre poi nel futuro, secondo me. Lo affronteremo di volta in volta. Vedremo. Ma ecco, quindi io direi di passare al prossimo punto, che è, ipotizziamo dietro logicamente, come al solito, un futuro dove il retail scompare, il supporto fisico non esiste, tutti gli store sono online. Come cambierà l'approccio del fruitore, del videogiocatore, dell'utente finale, come direbbe il vecchio presidente del consiglio? Questa digitalizzazione. Ma è sempre primo nei nostri cuori, Stefano. Sì, beh, lui è presidente del mio cuore, del mio cuore. Comunque, buccio di cuore. Lui e tanti altri, comunque, che ringrazio sempre. Grazie, che ragazzi. Ti hanno sono in Svizzera. Che ti hanno fatto andare grazie in Svizzera, a voi. Certo. Sì, grazie a voi sono in Svizzera. Comunque, lasciamo stare. A parte ciò, questo potrebbe portare a problemi come il gioco mordi e fuggi, quindi ci giochi, te lo dimentichi, ciao, rivederci, oppure insomma, questo è un percorso normale, il fatto che si passi avanti con i supporti è un percorso come quello del vinile, dell'audiocassetta, del CD, del DVD, del Blu-ray e così via, insomma, con tutto quello che verrà fuori, quindi è una cosa indispensabile per il futuro. Io personalmente penso, ad esempio, che nel digital delivery la copia fisica, in realtà, cioè la fisicità della cosa scompare tra virgolette, perché da quando è iniziata l'era digitale, diciamo, semplicemente noi stiamo spostando il supporto da un DVD o da un CD o Blu-ray a un server, quindi in realtà la parte fisica esiste, noi non la possediamo, è nascosta, sì, cioè da un'altra parte noi non ce l'abbiamo in mano, ma c'è, ecco, quindi in realtà la parte fisica, cioè, non è una cosa, ma guarda che è importante, l'etere. È importante averla in mano, guarda che è importante. quella è la prima cosa ma poi c'è anche proprio il possesso, che se tu ti vai a vedere, come dicevo, tutti i contratti, non so quanti hanno quella roba tua. No, ecco, tolta la parte dei contratti e così via, proprio dico per quanto riguarda il fatto di averlo fisicamente, cioè, in realtà non dal punto di vista legale ma proprio dal punto di vista egoistico, sì, cioè, di avere, esatto, qualcosa. Cioè che non hai più il CD in mano, il tuo CD è dentro un server, per dire, è dentro un enorme come si dice, i caricatori di CD, diciamo, la macchina di mi viene in mente il nome, come le macchine di 10 anni fa che mi piacevano tanto. Comunque secondo me comunque in realtà posso? Sì, prego. No. Secondo me già siamo in una situazione in cui ci sono tanti di quei giochi, di quelle opere in giro che già eccellendo, cioè veramente essendo qualcosa, fare qualcosa di bello è già difficile, perché in mezzo a tutta la cagnara, tutto il rumore di fondo che c'è, già avere qualche cosa che rimanga in testa è difficile. Perché ci sono tante cose che si copiano, che sono simili alle altre, per cui fare qualche cosa che già rimanga impresso al giocatore finale è complicato. Poi io, psicologia, scienza spicciolata neanche da mondo di Quark, proprio da Voyager, io penso che la memoria si formi più saldamente quanto più sensi sono coinvolti. Quindi se tu hai il gioco, ci giochi, c'hai la scatola, c'hai il supporto, c'hai il libretto delle istruzioni che odora di inchiostro, per dire, vai, te lo annusi e ti dà anche il giramento di testa. Secondo me quello lì ti rimane molto più impresso che scaricarti un gioco e giocartelo e basta. Noi abbiamo giocato tanti giochi, abbiamo vissuto tutte e due le epoche, le stiamo vivendo ancora adesso, insomma. Io mi ricordo più i giochi che compravo una volta e che avevo, che posseggo ancora, perché tanti ce l'ho ancora, e mi leggevo quando non giocavo, rileggevo le pagine delle istruzioni del manuale, esatto, sì, che poi erano in inglese. Le pagine del manuale non ci sono, esatto, più praticamente, esatto. E mi ricordo proprio quando me ne andavo a leggere. E adesso che ti ricordi di un gioco? Quando sì, anche perché quando non so tu, ma io lo compravo nel viaggio in metro, mi imparavo a memoria il libretto praticamente. E se era in inglese te lo traducevi pure. E così sì, quando rientravo a assolutamente. Casa. Assolutamente. Cosa che adesso ovviamente non si fanno più. Cioè, c'è una banalizzazione anche di certe sensazioni. Penso che non le proveranno più. Chi verrà dopo di noi non le proverà più. Vabbè, anche lì è come quelli che dicono, ma il vinile, i miei tempi, la sensazione della puntina sul vinile, il fruscio, questo e quell'altro. Insomma, è una questione di... sì, gli LSD. No, è una questione generazionale, forse, più che... cioè, una questione di abitudine che abbiamo noi, che magari più in là non avrebbe senso, perché o il gioco è talmente semplice che metterci un manuale non ce n'è bisogno, oppure considera quanto sono facili adesso i giochi rispetto a 10 anni fa. Ti spiega tutto il ciclo. C'è il tutorial, che se ne frega, esatto, al posto del manuale, che sia un bene o un male è da vedere, insomma, quello è relativo. È chiaro che però se devo pagare di più per avere il manuale, forse preferisco il tutorial, non lo so. Il problema dipende, è che, ecco, cioè oggi non è che paghi tanto di più, cioè praticamente tu vai a risparmiare quando ci sono situazioni speciali, o te lo compri dopo, non al day one, ma te lo compri dopo un mese, due mesi, tre mesi, oppure sfrutti i saldi, allora lì c'hai un guadagno effettivo rispetto al retail, digital download della prima ora, perché poi alla fine tanta differenza per avere di meno, come oggettistica, tutto sto creare risparmio non c'è all'inizio. E poi tra l'altro pure questo, cioè, perché mi fa pagare i primi giorni, mi fa pagare la mia hype, mi fa pagare la mia voglia maledetta di giocare a quel fottuto gioco, certo, che mi ha insinuato nel culo da 6 mesi, capito? Gioca! È quello che mi fa pagare, cioè, oltre ad avermi fatto il lavaggio del cervello, mi fa pure pagare di più. Questa è la cosa che del digital delivery mi fa un po'... Cioè, non c'è quel risparmio, almeno subito, che ci dovrebbe essere. Tutto qua. Poi potete anche aggiungere o anche insultarmi, se volete. No, non mi piacciono i buchi, i vuoti, vaffanculo. Perfetto, perfetto, grazie. Bene, detto ciò, sì, no, io Alex, che un po'. Alex, ci sei in primis? Sono qua. C'è sempre le adenoidi di Robocop, però. Ma non è un problema, le robo adenoidi, anzi. Tu cosa ne pensi appunto di questa in un futuro dove. Utopico o distopico a seconda delle scelte, dove il fisico non esiste più, esiste solo il digitale. Come ti poni? Supino o sottopino? Su abete, bene. No, che ne pensi tu che sei, penso, abbastanza legato ai supporti in generale, non solo per quanto riguarda i videogiochi, anzi, ma per quanto riguarda le tue attività lavorative e hobbistiche, ecco. Beh, come ho detto prima, c'è sempre, non so, c'è un distaccamento continuo e mi rendo conto che da tantissimo tempo che non compro un CD o un film. Poi li compro, però molto più raramente rispetto a una volta, perché non ho anche più il tempo per godermele le cose. Quando diceva Marco che si leggeva e rileggeva il manuale, sì, mi rendo conto che da ragazzo, da adolescente, da bambino, ci sono dei fumetti che avrò letto tipo centinaia di volte, le librette di istruzione dei giochi di allora che li avrò proprio consumati, che li leggevo intanto che facevo colazione, cioè proprio c'era ancora il segno del caffè, queste cose qua. E man mano che si va avanti queste cose si diluiscono, adesso non riesco a immaginarmi di rileggere un libro. Sì, magari sì, un giorno quando sarò in pensione, cosa che non avrò mai, lo farò, però ripeto, ho tante di quelle cose arretrate che devo fare e che non ho tempo di fare, per cui trovo molto più difficile l'idea di legarmi a qualcosa. Per cui secondo me questa evoluzione tecnologica, come c'è scritto qua, è tale per cui, perché si è evoluto un po' tutto il mercato e ci siamo anche evoluti noi, c'è molto meno tempo libero di una volta. Ripeto, una volta noi bambini ci rompavamo i coglioni. Adesso i bambini qua non si annoiano più. In comunque hanno 200. Cioè, che è un problema. Io, se non si annoiano io, più. Io mi annoiavo. I bambini si devono annoiare. I bambini si devono rompere i coglioni. Questa, l'unica cosa saggia che ho sentito dire a Sgarbi è proprio questa: che i bambini che si devono rompere da, i coglioni. La roba da grillo, ma non voglio fare, però. Vabbè. No, a parte comunque ciò, si devono. Si rompevano i coglioni perché cosa? Perché appunto. Perché c'erano dei momenti di pausa. Adesso tu. Ricordati tu l'ultima volta che ti sei annoiato. Cioè, se io sono a fare la coda in posta, perché è già tanto che sono in posta, per 30 secondi, no, tiro fuori l'iPhone e mi metto a leggere qualcosa, a fare Twitter, cioè non c'è più. Sta rientrando Pizzi, mi sa, eh. Sì, no, sta rientrando Pizzi che adesso sta segando un tronco, credo. La gamba, cioè, di Marco. Sta segando la gamba di Marco. In realtà mi stava reinserendo. A me sta bene, sto piede, sto guardando. Vabbè, non mi sta bene, sto piede. Tagliamo. Comunque, scusa Alex, prego. Pensando sì, effettivamente uno è talmente coinvolto da tutte le cose antinoia che quando capita di annoiarsi è una sensazione aliena quasi. Esatto. Ma non è un male. È come questa, quando ci si dimentica come ci si siede, la stessa cosa. Sì, esatto. No, ma secondo me è un bene, cioè personalmente non c'è niente di male nel non annoiarsi mai, anzi ben venga la cosa, secondo me, se è fatta con un po' di criterio, ovviamente. Cioè, secondo me alla lunga è una cosa che ti fa vivere 5 anni di meno. Ma scusa, perché invece annoiarsi? Se ti fumi una sigaretta, cioè, quando non ti annoi, poi sono 10 anni di meno. Quello sì, però. Cioè, perché invece? Perché secondo te allora ti fa avere. No, ripeto, di meno? Perché se mantiene un livello di tensione. Un conto è essere un conto è l'attenzione, un conto è la tensione, sono cose diverse. Secondo me, se uno non sa, cioè il fatto di comunque di dover per forza riempire qualsiasi vuoto è come una sorta di inseguimento continuo, ma di qualcosa che non sai neanche tu. Questo, io la vivo così, poi magari per tu questa è una cosa assolutamente personale, non voglio dire che sì no ma è il mondo sbagliato, brutta, come si dice, tutto un piano per da parte delle società, dei stati, per cercare di farci morire prima, ci tengono così, ci danno la pensione che non avremo mai. Esatto. Mi sembra un'ottima cosa e sta funzionando molto bene, secondo me. Sì, una cospirazione. Esatto. Credo che i giovani adesso, ma, non, ma sai che non lo so, probabilmente se tu c'hai un sacco di tempo libero hai il tuo modo di legarti alle cose, che è un modo diverso. Probabilmente il giovane di oggi, cioè, io mi ricordo, cioè, ho conosciuto un ragazzino che ha tipo 12 anni meno di me, che giocava a PES sulla PlayStation, forse la 2. E no, qual era quello? Era PES, che all'inizio non c'aveva i nomi, sì, dei giocatori giusti, sì, che c'aveva quelli, sì, non c'era, quindi in inglese, non c'era struttura, cioè diverse, esatto, diversi, lui se li cambiava tutti. Lui si è cambiato tutte le squadre di Serie A, certo, sì, sì, per potersele giocare. Ripeto, era veramente al di là del bene e del male, e cioè, vuol dire che lui ha, con PES, che probabilmente non era neanche originale, comunque c'ha un legame fisico, cioè, perché se tu passi ore, giorni a fare su sta roba qui, mesi, cioè, alla fin fine tu sei parte integrante del gioco, anche perché hai contribuito a crearlo. Per cui, ripeto, non è una cosa, probabilmente i giovani di oggi o di domani, quelli che non avranno il gioco fisico, avranno un altro tipo di legame. Avranno un legame con, secondo me, con il supporto, con il tablet, col, sì, so, col cellulare. Sì, col supporto, ma non quello. Io non ce l'ho, nel senso, per quanto sia tra giovane e vecchio, nel senso, vecchio, insomma, è, no, è, sei adulto. sei vecchio, quanti anni hai? 29 tra tre giorni. Sei vecchio. Hai 20 anni più di quelli vecchio, che dovresti avere. Sono più giovane qui dentro. Io vedo mio fratello, per dire, che lui invece ce n'ha 14. È vecchio, anche lui è vecchio. Ah, è vecchio, vabbè, allora. è lì. Lui non gliene frega niente, però vabbè, noi siamo un po' diversi, però lui non gliene frega niente. Né dell'oggetto, né la passione un po' più, che ne so, a calcio, no, gli piace. Secondo me il livello è questo: quando esci di casa e ti dimentichi il cellulare, ti viene l'ansia. Questo è secondo me il grande spartiacque. Sì, però è perché, sì, più che altro è concentrata tanta roba. Però è vero pure che magari io, perché magari spesso quando esco mi piace mettere la musica, io ho tutta la musica in cellulare, quindi, cioè, è più legato al, perché se no ci faccio, ti annoi, quindi non, sì, non ti puoi annoiare, sì, no, quello sì, beh, sì, forse. Alex, tu ti agiti, se esci senza cellulare? No, ti agiti, proprio ti viene l'ansia. Sì, perché tendenzialmente tolto le cose di lavoro, cioè tu sei in ferie, non, nessuno ti deve chiamare, sei in vacanza a Tenerife ed esci col cellulare, senza cellulare. No, l'ansia ti viene l'ansia. Guarda, cioè, ti dirò, no, se sono a Tenerife e ho la fidanzata di fianco, perché è lei che fondamentalmente mi contatta più di ogni altro, non è un problema. Però mi rendo conto che sia per lavoro che per i rapporti umani, cioè, senza cellulare è faticoso. Ecco. Poi non parlo mai al cellulare, cioè, io ho l'iPhone e tutto il traffico che faccio è traffico dati. Sì, sì. E no, se io posso, bene, evito di parlare di persone. Export di dati, insomma. L'importante è sapere. Ma quindi secondo voi, insomma, tenendo un po' le conclusioni, i supporti, no? Quindi CD, DVD, cartucce, cazzi imperi, sono solo supporti, o comunque per chi lo utilizza, per chi li ha utilizzati, hanno un significato comunque diverso? No, ce l'hanno un significato diverso, poi dipende anche da cosa c'è dentro il supporto. Cioè, per quanto mi riguarda, se uno mi ritrovasse la confezione originale di Elite, cioè, io mi metterei a piangere. Se invece viene fuori, che ne so, anche solo un Doom 2, che è un gioco che a me è piaciuto tantissimo, però a cui sono legato un po' meno, dico, sì, bello, figata, però non è la stessa cosa. Ma io te la trovo. Questo, però poi mi devi metterti a piangere davanti a me, eh. Cioè, assolutamente, io filmo tutto. Assolutamente sì. Se no mi rendi i soldi. Ma su cassetta, non su disco, su cassetta. Su cassetta, per, su cassetta, per MSX. Ah, per MSX, lo vuoi. Sì, non è facile. Vabbè, dai, con un po' di impegno. Comunque, su quel gioco ci ho lasciato il cuore, il fegato, la milza. Ma più il fegato, forse. È comprensibile, è condivisibile come sharing di fegato, quindi. Comunque, cognome? E sono legati a quello che c'è sopra. I supporti. Io sono affezionato a CD masterizzati, con cui ci ho fatto compilation, che mi ero portato in un campeggio epico, e io cerco quel CD proprio, anche se ritrovassi la stessa tracklist probabilmente mi piacerebbe, forse ce l'ho ancora graffiato che non funziona, però quello perché è legato a quando l'hai masterizzata, quando l'hai fatta la partenza, dove l'hai tenuto nelle borse, i posti in cui è stato con te, eccetera eccetera eccetera. Quindi è il primo pompino. Non si può dire. Vabbè, quindi sì, comunque. No, sì, quindi sì, sì, sì, è legato, supporto. È legato, sì, sì, supporto. Cioè l'esperienza con quel supporto, non lo supporto in sé. Sì, bravo. È un concetto okay. Del genere, nel senso, sì. Ma e quindi col digital delivery ti troveresti male? Cioè, nel senso, pure. Ma io ce l'ho questa cosa, nel senso, per dire, ad esempio, ho fatto l'esempio di Daft Punk perché vabbè, so, tipo, non lo so, sono il secondo o il terzo appassionato di Daft Punk in Italia, non lo so. Okay. Comunque, ho una smania matta di sentirlo perché a me poi interessa quello che hanno fatto, non dove lo devo sentire. Se lo trovassi scaricato anche illegalmente prima di comprarlo, nel senso un leak, me lo prenderei subito, lo sentirei tutto quanto. Però poi dopo vado al negozio, lo vedo, mi viene in mente, cioè, non mi viene da ordinarlo perché è un processo che ancora mi sta un po' sulle palle. Ordina, aspetta il corriere. Però vado al negozio, lo trovo, me lo compro. Cioè, nel senso, lo voglio fisico, però lo voglio sentire. È un concetto okay. Parallelo, no, diciamo. Ti faccio un altro esempio, allora. Più sì. Tornando ai videogiochi. Tu nel tuo cellulare ti scarichi un giochino sì. Tramite Digital Delivery che ti fa impazzire, ok? Sì. Il tuo ricordo rimane legato al gioco o al supporto? No, al gioco. In questo caso, al gioco. Al gioco. Cioè, sì, non te ne frega niente del fatto che sia su quel cellulare, cioè che quel cellulare tu metti, c'hai l'iPhone 5 per no. Dire e quell'iPhone 5 ti ricorda quel gioco e viceversa. No. Però per esempio magari il supporto te lo ricordi quando magari te lo sei pagato, cioè c'è sempre qualcosa dietro in più, cioè magari hai fatto il casino per venderti una cosa usata o quello l'iPhone prima usato, l'hai fatto il macello per vendertelo, che ne so, sei andato al negozio e te lo ricordi. Ah, quindi da. Compartimenti stagni, diciamo. Deve essere sempre legato a un ricordo, a una cosa in sé per sé non mi dice niente, anche perché poi sono cominciando ad educarmi anche a questo, nel senso c'è solo in digital delivery il gioco per iPhone. E comunque poi vabbè, facendo la battuta, sì. Non esistono ancora giochi per iPhone che dici lo voglio possedere in tutte le posizioni e le maniere. No, ok, ecco. E a proposito di questo coso, di questo, meno che Marco non voglia aggiungere qualcosa su questo, passo al punto io, dopo sembra, collegandomi. Mi sembra che hai già palesato il fatto che comunque io ci tengo tantissimo. Ok. Sicuramente ha un allora, significato collegandomi diverso. Ecco, collegandomi a questo posso, e a quello che ha appena detto Simone, dico, avrà un senso in questo caso collezionare i videogiochi e in futuro, quelli che ci hanno appassionato. Prendiamo il esce Mass Effect 8, adesso giusto per dire un nome a caso, esce Mass Effect 8, è il gioco della vita e noi vogliamo averlo in tutte le forme, vogliamo toccarlo con mano, ma non possiamo perché è solo in digital download e quindi starà nella nostra console. E vedremo il gioco in maniera diversa, lo facciamo già e i musei del videogioco quindi a un certo punto non potranno proseguire, come dire, dovranno fermarsi al quando c'era la copia fisica, al 2000X per dire, quindi esatto, al 2000X o al 1990X come come che nel guerriero. Quindi secondo voi, Marco, ad esempio, Sicuramente avrà un senso collezionare, senso collezionare cose vecchie, perché a quel punto appunto se non ci sono altre soluzioni, se non c'è più nulla da collezionare, quello ovvio, c'è già, cioè quando mi dico per cose vecchie quello c'è già, sì. Però per il futuro automaticamente penso che andrà, se non ci sarà più una cosa fisica, andrà che ti metti da parte? Beh, ti metti da parte la console, ad esempio. Cioè, se installi dentro e te la tieni via. No, tipo nell'hard disk di quella console c'è tale gioco, ci sono tali giochi, anzi, adesso ipotizzando, ci sono tali giochi che ti hanno colpito, appassionato, eccetera, e hai quella collezione di file. Però il file troppo... Troppo lontano, troppo impersonale. Troppo personale, troppo etereo. Cioè, tu non lo vedi, non lo tocchi, non lo senti, in odore, in sapore, in colore. Marco, ma anche l'amore è così, però tu lo sai che ecco esiste. Perché non amo. Ecco perché sono privo di amore. Sei privo di amore, esatto. Quindi sì, non ti viene da collezionare il coso digitale, qualcosa che non sia fisico. Ce l'ho avuto in passato questa cosa, però poi ho sempre ho ragionato che se c'è qualcosa che mi interessa me lo tengo installato, dopodiché lo cancello. Ok. Ma e quindi ti porta in questo caso, quindi adesso qui collegandomi leggermente a qualche punto fa, al fatto di vedere il gioco in una maniera diversa, quindi a un gioco che ti rimane meno dentro, quindi ci gioco, lo cancello, ciao. Questo in generale anche con i giochi grandi, con i giochi AAA, sì, quelli importanti. Molto di più, anche perché ti ho detto prima, c'è tanto rumore di fondo, per cui sono tanti giochi simili che poi alla fine sembra di giocare sempre le stesse cose, quindi devono essere proprio cose molto molto molto particolari e molto belle, oggettivamente dei bei giochi. Quelli tutto sommato rimangono, perché comunque se ti è fatto passare una bella 20 ore, 10 ore di giochi di gioco e di avventura, ti rimane, come se ti va a vedere un film al cinema, comunque magari non c'hai una copia, non sei comprata, comunque ti rimane. Che cosa ti rimane? Però in effetti avere qualche cosa di più a poter vedere, mirare, avere la tua bella bacchechina, la scatoletta originale con la scritta, con i limbi tutti mezzi accartocciati, perché a forza di tirarlo fuori facciano un pochino, ecco, un po' una soddisfazione, insomma, perché poi il feticcio è importante, come diceva anche Luigi Marone, qualche... sì, esatto, e poi come diceva lui, io giustamente, secondo me, cioè quello comunque di lasciare la possibilità a chi vuole di comprarsi un qualcosa di fisico che non sia necessariamente il CD o il DVD, magari, però potrebbe nascere qualcosa, un mercato parallelo, tra virgolette, esatto, mercato parallelo, cioè una cosa, se lo vuoi lo paghi di un più GameStop, noi ti mandiamo la copia fisica, esatto. Per dire, cioè io non ti vendo il CD, ti vendo magari il codice per scaricartelo, però insieme al codice nella scatola c'è una mappa, c'è la maglietta, ecco, anche perché il pezzo imperio. Ricordiamo che non in tutto il mondo è possibile fruire del digital delivery alla stessa maniera, no, quindi se uno vive in un paesino sperduto non ha... Nel Darfur magari si preoccupano, esatto, di, cioè, altro. Tu magari se non ti ordini... Dov'è il Darfur? È vicino, dietro Cagliari, vai dietro, sempre... gira a destra al Tambacaglia. È il problema del McDonald's. La risposta giusta è nel mio cuore. Questo ricordo. Nel mio, esatto, nel mio cuore. No, ecco, quindi chiaramente tu se non ti ordini per posta il gioco non puoi giocarci. E non ho detto che arrivi, perché... O se non vai a comprartelo, ecco, mettiamolo così, non puoi giocarci. Quindi l'unica è avere quel tipo di cosa, di prodotto. Però questo è anche legato chiaramente al tempo, alla contemporaneità. Tra 20 anni magari ci sarà un satellite che spara il segnale, sto sparando chiaramente, il segnale wifi anche nel deserto del Sahara, e chi se ne frega del digital, del supporto fisico, il beduino nell'oasi si scarica Angry Birds, si scarica Call of Duty 35, in cui i beduini vengono massacrati dagli americani, esatto, sono loro il nuovo nemico, tanto sempre peggio, tanto sempre peggio, quindi ecco anche questo. E cognome Simone? Ripetete la domanda è, quindi collezionare videogiochi avrà un senso? Stai facendo come Marrone, che lui si fa ripetere le domande perché una volta sola. No, comunque, appunto, collezione videogiochi avrà un senso e vedremo il gioco in maniera diversa, con la totale perdita del supporto fisico. La cosa brutta, tra virgolette, è che noi non lo facciamo già. C'è chi lo fa già e noi invece stiamo ancora a fare le pippe e pensarci, secondo me. Perché già a pochi chilometri dove stai tu, un concetto di digital delivery è fattibilissimo. E ricordiamo che il vero gioco è Steam. E non è il fatto di comprare giochi, non è i giochi che compri, ma è il fatto di comprare giochi è il gioco. Come dice sempre l'ottimo Davide Piandra, che Steam è un gioco in sé nell'avere la libreria piena, diciamo. E effettivamente è un po' così, perché alla fine l'unico completismo che puoi avere è tutta la libreria completa di giochi. Sì, sarà un nuovo concetto, e appunto sarà una libreria virtuale che tu avrai con tutti i problemi, gli oneri e onori del caso, insomma. Io credo che sono quei cambiamenti, noi ci stiamo a metà, ma credo che saranno quei cambiamenti che avverranno naturalmente. Può essere che neanche ci farà, cioè neanche si proveranno, si faranno i problemi quelli che vengono dopo di noi, le generazioni più giovani. Sì, ma che succede se fra 5-10 anni fermano il supporto al gioco? E quelli dicono: e sti cazzi? Che esatto, cioè, perché esatto. Ci sono ancora i supporti dei giochi, dirà. Esatto. Supportare un gioco, ma come c'è il bambino stronzo, no, di archeologia. Passate, presente. Via, non mi interessa. No? Perché basta tanto, se ci pensi, cioè alla fine la musica, il mercato della musica è così cambiato che il disco magari te lo scarichi, ma si sono impennate poi le partecipazioni ai concerti da parte delle persone, o in tutte le manifestazioni in cui è possibile vedere, ascoltare, parlare col proprio idolo, sono diventati momenti di aggregazione molto più alti. Quindi in qualche maniera poi il mercato, le persone poi reagiscono, secondo me. E noi, come dicevi tu appunto, ci stiamo facendo il problema quando già secondo me la generazione dopo il problema non se lo faranno. Io vedo i miei nipoti che hanno 3 anni, 4 anni. Sei vecchio, sei vecchio. Cioè, no, il nipote. Fratello già figliato a 14 anni. No, sono nipoti acquisiti, non miei. Rubati al vicino. Esatto. Che per dire non hanno il concetto della tastiera. Sul televisore vanno con le ditine perché papà gli ha fatto vedere sull'iPad il giochino o la favoletta, loro qualsiasi schermo con le dita tutte impalaccate, piene di olio, che tra l'altro. Però se ci pensi è impressionante, cioè impressionante, è un segno dei tempi che fa pensare a noi. Pensa a un figlio tra 10 anni, cioè figlio o il nipote o insomma quando avranno un tot. Senti Pizzi, ciao. No, dice che non gli sta bene. Non mi sta bene. A me non mi sta troppo bene. Ciara. Però abbiamo finito, dai. Comunque, vabbè, direi che ci siamo. Ho espresso un concetto quasi di senso compiuto, quindi per oggi ho fatto il mio. Insomma. Sì, dai, le frasi erano giuste. Poche idee ben confuse. Ecco. Quindi va tutto bene. Racugliuccio, Alexuccio, Cognomuccio. Raccogliuccio, appunto, secondo me i giovani non si porranno questo problema. Nei musei non metteranno il gioco, ma metteranno il gioco con lo strumento con cui andava giocato. Se c'è Angry Birds al MoMA, ci metteranno Angry Birds con un iPad. Punto. Un okay. iPhone. Va bene. Niente di che. Ma almeno a quelli gli estenderanno la garanzia più di un anno, secondo me. Non si sa. Io pensavo che, sai, quelli che dicono, oppure mi è venuto in mente proprio con tanto che parlavi tu. Tu vai a casa di Marco Gualdi, c'è la sua parete con i giochi che ha giocato. Giusto? Sì. Volendo, sì. Sì. Gualdi. No, non ha le teste di uomini, bambini, queste cose. Vabbè, insomma, oppure vai a casa. Vai a casa di qualcuno che è un giocatore, c'hai appunto la libreria, oltre ai libri c'è anche i videogiochi. Quello che cambia è che non ci sarà più una libreria privata, ma ci sarà la libreria bacheca sul Facebook di Marco Gualdi. Per cui, cioè, nel senso, non ci sarà più una cosa privata mia. Vieni a casa mia, vedi sta roba. Vieni a casa mia e ti faccio vedere la mia collezione di videogiochi. Cioè, praticamente questa cosa sarà pubblica. Gradisce un cordiale. La cosa sarà pubblica, condivisa e, insomma, nel futuro ognuno sarà famoso per circa 15 secondi. Beh, lo puoi fare già adesso sì, su YouTube, sì. Non c'è problema. Purtroppo, quindi. Per fortuna, cavabonga a tutti. Esatto. Comunque, detto ciò, io direi di passare, se non avete altre questioni, di passare ai commenti e alla posta, al Twitter, eccetera. Commentiamo, mazza che puttana, che schifo, mamma mia. Quindi, commenti dal web, abbiamo alcuni commentucci simpaticucci, oggi sono molto ucci, devo dire, non so perché. Dal sito di Dietrologia Videoludica, vi ricordo www.dietrologiavideoludica.it per leggere gli articoli che Simone Cognome copia e poi incolla. Ma no, spiega che però sono sempre miei, non che io li copio. Certo, da chi no, li copia, no, ovviamente li copia da solo, sono suoi articoli. Non si dà neanche la liberatoria spesso, quindi sì. Esatto. Povero Simone Cognome. Ecco, io voglio spezzare un braccio a suo favore, quello di Marco, credo, però lo voglio comunque spezzare. Il primo è di Morgan, ascoltatore sempre attento, che saluto, qui do tanti baci perché ci vogliamo tutti bene. Consiglia assolutamente di sentire l'episodio sulla LucasArts e commento appunto riguardo a quell'episodio lì. Dice che è una puntata molto piacevole e con dei ricordi storici, cose che vanno, che anche se le ripeti 200 volte fa sempre piacere sentirle, insomma, mi sembra il senso è quello. Il Filnico, che è Andrea Milana sotto falso nome, che ci ascolta con felicità mentre vola verso Helsinki, e salutiamo anche lui. Perdonatemi, riguardo all'episodio sulla PlayStation 4. Credo sulla punta della lingua, ho capito. No, purtroppo. Vedi, oggi mi sono un po'. Se non dico uccio alla fine di ogni parola, non riesco a parlare bene. Quello. Oggi va così. Game over. Fai complimenti per l'episodio, aspetta l'Xbox sperando che porti qualcosa di meglio rispetto a quanto ha portato la PlayStation 4, e anche noi più o meno idem. Se avete sentito l'episodio, non è che siamo rimasti esageratamente colpiti dalla cosa, speriamo tutti che ci sia qualche innovazione in ma più. Guarda, io penso che la presentazione della Xbox mostreranno un cavo Ethernet, che sarà una cosa stupenda. Mi piace. Sì, poi ci sarebbe da parlare. Vabbè, si potrebbe fare 2 ore e mezza su questi test di cazzo, e si lamentano della console deve stare sempre connessa. Sì, però, beh, anche quello è un altro discorso. Sull'iPhone, ma non è sempre connesso l'iPhone, ma non è sempre. No, dipende, non è sempre connesso. Ah, dai, c'è gente che si fa il piano dati. Sì, ma cioè anche io ho un piano dati infinito, però cioè, non è quello. Prima no, non è che per forza devo essere sempre connesso. Cioè, non vedo il perché. Comunque, è un altro questione, un altro episodio questo. Scusami, due cose. Certo. Se tu prendi un iPhone, un iPad, sì, e togli la connessione, sono dei pezzi di plastica, appunto. No, io ho usato un iPhone senza piano dati dal 2 a 2 mesi fa era senza piano dati il mio. Dall'iPhone 2... Beh, avevi un pezzo di plastica in tasca. No, dai. Faceva tutte le altre cose che faceva, lo usavo col wifi. Cioè, sì, tanto okay, lavoravo da casa e avevo fatto. Esatto, no, è per dirti che un iPhone, un iPad senza connessione, che sia piano dato 3G, che sia wifi, sì, sì, sì, è un pezzo di plastica. Ah, molto probabilmente okay, queste console lì, sì, cioè sono nati per stare connessi, cioè, esatto, per stare connessi, per essere, fare parte di una questione social. E appunto, dico, già eccetera. Oggi, già, cioè il Wii era uno che stava sempre, una console stava sempre connessa. Quindi, per cui queste nuove console saranno dei pezzi di plastica se non sono connessi, perché è così che ci sono le cose. Però lanciamo comunque in anteprima che il 21 maggio la presentazione di Microsoft sarà seguita da questo programma in diretta e streaming. Io non fa. Sì. Ok, non solo, sì, saremo seguita tanti. Da chi? Seguita da chi, scusa? Da te. Comunque, da me, parlerà l'unico ascoltatore. Tizi, sicuramente. Facciamo il turnover, chi non sta, segue. Facciamo così. Esatto. Comunque, poi, dalla pagina di Facebook, Giordano Cioccolini, spero di aver pronunciato bene il cognome. Che bello, sì, Cioccolini. Cognome. Sì. Che bello questo Andreozzi. No, è molto più bello. No, sentirti dire cognome mi fa sempre un certo effetto. Okay. No, lui invece dice che secondo la sua opinione le console saranno molto simili per quanto riguarda l'hardware, più o meno come già adesso, tra parentesi, e la battaglia sarà sui campi social, Move, esclusive, e chissà, conclude dicendo chissà che uscirne vittorioso non sia proprio il videogiocatore. Noi ce l'auguriamo in quanto videogiocatori, sinceramente non mi dispiacerebbe se la cosa andasse a nostro vantaggio. Però sai che figato un bel Kinect Anal? Sì, beh, secondo me già l'hanno fatto. Avrebbe... Da un certo punto di vista, esatto, è già così. È già realtà. No, è più il Move forse. Più Anal, devo sì, dire. Sì, poi da Twitter abbiamo tanti nuovi seguaci, ma io non vedo perché nominarli, sinceramente. Andateveli, controllate. C'è una donna, però, c'è una donna. C'è una donna, attenzione. Sì, è Daniele Corsi, esatto, giusto? Proprio lui. No, Marina Belli, che salutiamo. Grazie per seguirci, nonostante siamo brutti, sporchi e cattivi. Da Twitter Antonio Candido dice che l'ultima puntata è spettacolare, però chiunque abbia linkato la cosa non ha specificato quale ultima puntata, ma credo che sia quella del l'ultima, quindi in generale l'ultima nostra puntata è sempre spettacolare, certo, sempre l'ultima che è la migliore. È sempre l'ultima ed è sempre la migliore. E poi c'è naturalmente da Google Plus. Da Google Plus. Sempre William Shatner, ubriaco. Shatner. What are you, motherfucker? Ecco, una mancanza, ecco, questa di Marco, che purtroppo non poteva parlare invece di William Shatner, che io ho sentito durante lo scorso episodio. L'hai sentito? E sono felice. No, ho sentito la mancanza. Ah, certo. Quindi io pensavo che l'avessi chiamato per dirgli chi eravamo, invece no. No, io avrei voluto. No, volevo chiamare te per farti dire. Motherfucker. Ho provato a farlo io, ma non rendo bene, sì. Sinceramente. La stessa cosa, assolutamente. Lo so, perdonami, ma. Si fa quel tu che torna si torna a fare le pizze mentre cucini i cappuccini e tiri il vapore. Quindi. Sono cose che sei anche ben pagato per pagato farlo. Pagato come un fior di quattrini. Profumatamente. Esatto. E voi state nella vostra eurozona, maledetti. Tenetevi i vostri sporchi euri, anzi. Io no, mi riprometto sempre di chiederti, perché vorrei spadriare anch'io, quindi. Vabbè, allora, fine episodio, tra poco potrei chiedermi tutto ciò che vuoi, tanto domani non lavoro, quindi sono libero. Detto ciò, conclusione finale, un pensiero finale sul digital delivery, proprio una frase velocissima, come questa cosa piace tanto a Pizzi, a me no, però vabbè. Vabbè, no, fammi l'imitazione di Pizzi che mi dice... A me sta bene. Grande Pizzi TVB, tra parentesi, comunque. Detto ciò, Marco. Ma il digital delivery per me è una cagata immane. 90 minuti di applauso. No, vabbè, penso che sicuramente quello è il futuro. Ci adatteremo. La resistenza è inutile. È così. Dobbiamo per forza adattarci. Ok, Cognoms. Il futuro? Il futuro, il digital delivery, una considerazione finale sull'episodio. Ma l'episodio è bellissimo, come tutti gli episodi di ludica. Come tutti gli ultimi episodi. Sarà bellissimo, cioè quando facciamo la prossima puntata, perché sarà l'ultimo questo, e quindi diventerà bello. Adesso è penultimo. Ah, okay. Adesso attualmente è il decimo che è più bello. Funziona okay, così, okay, funziona bellissimo, così. È bellissimo l'episodio precedente a questo, e ma questo scommetto col tempo, esatto, come il buon vino. Esatto, diventerà bello soprattutto col tempo. Con il buon vino, come il buon vino, e io direi che però dobbiamo cominciare a aprirci a questo digital delivery del cavolo e metterci in testa che sarà il futuro, insomma, che è il futuro è già qui, ok? Esatto, okay. Perché oggi è già domani, esatto. Quindi Alex, visto che come sempre è bellissimo stare in vostra compagnia, vorrei chiudere con due considerazioni. Uno, la bellissima copertina di questo episodio per quale ringraziamo, ringrazi te stesso. Lo sai che cosa ci manca? Esatto, ci manca? Un gattino. Dovevi metterci un gattino. Cazzo, quasi. Perché il gattino? Perché no, tira sempre il gattino. Ah, beh, infatti, cioè, il gatto. Bene, quindi Alex, Digital deliver us from evil, che è bella una citazione in inglese che ci fa piacere, e beh, è così, e se ci pare, anche se non ci pare, così. Benissimo, va bene. Allora, io saluto tutti quelli che sono rimasti ad ascoltarci sino a qui. Saluto voi, Marco, Simone, Alex. Avete dei siti particolari da suggerire? Sì, esatto, si può dei siti particolari da suggerire. Io ad esempio ne avrei uno, www.retrocast.it, dove trovate quello dove state feedback altroni, fisico lì. Esatto, dove troverete un feedback fisico ai nostri podcast audios. Una collector edition, praticamente. Una collector edition con me, Luigi Marrone, Vittorio. Le action figures di voi altri. Le action figures di noi in action, tra di noi. Che bello, ecco. Che bello. Cose belle. Poi ripeto, quindi lo ridico, dietrologiavideoludica.it, dietrologiavideoludica su Facebook, piaciueteci tanto. Assolutamente, che siamo quasi a 100. È una cosa brutta da dire, ma siamo quasi a 100. Piaciueteci. Sì, esatto. Simone? Io vi consiglio freeplaying.it, che è il podcast lo so, che conduco l'ottimo Bruno. E stasera è sempre nella grande, non so se sapete, ma mentre noi registriamo questo, lui registra un'altra cosa sempre della grande mano di PN. Hai capito. E basta, la lunga mano cancerosa di... No, ecco. Si allarga a macchia d'olio. Non mi sta bene fare ironia su questo IPN perché vabbè, bellissimo. Basta. Ok, vabbè. Quindi ok, no, ok, punto finito. Alex, qualche contatto anche per farti pubblicità? No, non c'è nessun problema, figurati. alexraccuglia.net. Ah, proprio è uscito così, ieri il mio sito, sì. Utorge? No. Se no, le mie minchiate sul video le scrivo su videodigaz.wordpress.com. No, ecco qua, così ti vogliamo. Naturalmente, un po' più corporativo. Naturalmente proponiamo l'appello a giovani redattori in erba, anche sotto erba volendo. Anche da quella buona che te se va vogliono volare. Collaborare, mandateci qualche. Mi ho messo bene questa incitazione alle droghe leggere. Se volete collaborare, potete mandarci le vostre opere, i vostri lavori, le vostre recensioni per vedere. Ovviamente possiamo prendervi con noi o anche no, dipende. Quindi fateci vedere quanto siete bravi. Esatto, poi non siamo schizzinosi, anche perché noi in primis non è che siamo dei cialtroni, quindi esatto, però all'interno dei cialtroni siamo dei cialtroni, noi fissiamo un livello, certo livello di cialtronaggine minimo, è ovvio che, cioè, ecco, non è che possiamo andare oltre, quindi esatto, adattiamoci l'uno con l'altro, mettiamola così, che mi sembra la cosa migliore. Bene, detto ciò, io saluto tutti, ringrazio di nuovo tutti gli ascoltatori, i miei super amici che hanno fatto il podcast con me, e niente, vi saluto alla prossima puntata. Ciao a tutti. Ciao ciao. Ciao ciao ciao. Ciao ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Finito. Bene. Un'ora di puntata. Cacchiamo. Okay. 2 ore e 5. Quarto d'ora 20 minuti. 5, 5. Un'ora e mezza. Dai.